riprendere per il nostro incontro ultimo di questo seminario il lavoro. Questa volta mi tocca di dare la parola a me stesso sul problema della legislazione antieretticale di Federico II. Vi dirò subito che uno dei primi effetti del seminario medesimo è stato quello di avermi indotto a cambiare in parte almeno la angolazione di quello che avevo preparato. Perché se questo mio contributo voleva servire ad una chiarificazione del mondo politico, culturale e anche della personalità di Federico II, i discorsi che in questi giorni si sono fatti mi hanno indotto a ripensare, ed è lo dico con profonda soddisfazione, alcune non tanto delle mie posizioni quanto dei problemi e del modo di esporre certi problemi. Perché evidentemente la questione relativa alla legislazione antiereticale di Federico II può prospettarsi da vari punti di vista, sotto varie angolazioni. Quella che in un certo senso fa sempre impressione e che viene subito dinanzi agli occhi è il problema della introduzione da parte di Federico II della pena di morte per eresia. È la posizione, come voi sapete, dalla quale hanno esaminato questi problemi un grandissimo giurista come Julius Ficker e un giurista francese, Le Havel. Ma c'è in questa angolazione, che potremmo dire giuridica, c'è poi il libro che è stato già ricordato dal collega Schaller di Giovanni De Vergottini, Le leggi imperiali del 1220, primo volume di un'opera che non vedremo, ahimè, più, nel senso che l'autore purtroppo è morto prima di continuare, non dico di concludere, ma di continuare la sua opera. Opera di giurista, devo aggiungere, però di un giurista particolarmente sensibile alla problematica storica, per cui Le leggi del 1220, della cui importanza accenneremo fra pochissimi minuti, queste leggi del 1220 sono viste come il momento preciso, specifico, caratteristico di una linea politica papale, di una direttiva imperiale, che a un certo momento, nel loro incontrarsi, sotto l'effetto delle circostanze storiche, determinano una legislazione. Il fatto legislativo viene visto in funzione, sì, della legislazione papale ed imperiale, ma anche sotto le circostanze storiche. Vi è un altro modo, un'altra via di approccio a questa politica antieretticale, quella che noi potremmo chiamare l'approccio che ci viene dall'appoggio della storia della Chiesa. Le leggi antiereticali di Federico II sono state certamente, come avremo occasione di vedere, stimolate, provocate, possiamo anche dire imposte dalla Chiesa. E allora com'è possibile questa situazione, questa conclusione paradossale, se voi volete, aggiungiamo tragica, di un processo storico per cui la Chiesa di Cristo, che è Chiesa di carità, in una delle sue espressioni più alte, qual è stata la Chiesa dell'Occidente, a un certo punto arriva a imporre, dicevamo or ora, a imporre un fatto così tragicamente grave, quale sarà la pena di morte per eresia. Mi permetterete rapidissimamente di ricordarvi che tutto il tragico succedersi di Roma, che dai primi decenni del 200 arriveranno fino allo 700, ivi compresi i processi famosi delle streghe, la caccia alle streghe, ahimè, nascono dalle decisioni che in questi anni saranno prese. E là, come mai e perché a un certo punto la Chiesa decide di dover intervenire, di dover imporre la punizione degli eretici e per giunta la pena di morte? Voi sapete che è la problematica che noi potremmo dire di molti libri di storia, di molti manuali di storia della Chiesa, ma in cui è particolarmente interessante il volume di Maisonneuve, Les origines de l'Inquisition, dove il problema della storia della Chiesa per quanto riguarda l'inizio della procedura antiereticale e l'introduzione della pena di morte è per certi aspetti importante. Vi è infine quella che noi potremmo chiamare l'approccio storico-politico, cioè quali sono le circostanze della politica papale da una parte e delle esigenze della politica imperiale dall'altra, che hanno a un certo punto costretto un uomo come Federico II ad accettare questa imposizione papale e a corrisponderle. Diciamo che è la posizione nella quale si collocano molti degli storici di Federico II, di coloro che hanno narrato le vicende e i problemi relativi a Federico II, a cominciare dai due importantissimi e per certi aspetti fondamentali ancora oggi volumi del Winckelmann. E potremmo anche ricordare il Kantorowicz. Devo dirvi che di queste problematiche, di questi modi di approccio, io oggi terrò presente piuttosto un altro che inerisce, io ho detto, sono stato indotto in parte a mutare il mio piano iniziale di impostazione, che inerisce ad un problema che vorrei dire un problema squisitamente umano e il più possibile vicino, che ci aiuti il più possibile a intendere questa personalità, che è la personalità di Federico II, questa personalità che nel corso di questa settimana è passato dalle, non voglio dire espressioni generiche, perché bisogna pure ogni tanto adoperare delle parole generali, ma è passato da certi termini che sono persino un po' luoghi comuni, lo stupor mundi, l'immutator seculi, il trasformatore, è vero, dello Stato, l'uomo moderno, l'accentratore e via discorrendo, ci si è venuto, lo dicevamo più volte nel corso di questi giorni, ci si è venuto rivelando a un tempo di una complessità e nello stesso tempo di uno sforzo verso la riconduzione di questa molteplicità in una almeno unità di concetti, di propositi, di intendimenti. Cioè, il problema che io qui questa mattina mi porrei è se e fino a che punto lo studio di questa legislazione antiereticale di Federico II contribuisce e ci arricchisce sulla conoscenza di Federico II stesso e se ci aiuta a capire più e meglio la sua personalità. A questo punto Un problema è inevitabile e poiché è emerso varie volte nel nostro discorso, io un po' lo affronto, non dico di petto perché il problema è complesso, ma certamente lo affronto ed è l'atteggiamento di Federico II verso il fatto religioso. Facciamo una premessa ed è che allo stato attuale delle circostanze e per quello che io sono capace di capire, l'interno sentimento religioso di Federico II ci rimane per molti aspetti preciso. Purtroppo noi non abbiamo un diario come lo abbiamo per dei personaggi del mondo moderno. Noi non abbiamo delle testimonianze immediate, non uscite dalla sua penna, ma piuttosto che escono direttamente dal suo cuore. Certo, dobbiamo stare attenti dal pensare che Federico II fosse quello che noi diciamo in italiano un temperamento espansivo. Chi ricordi la sua difficilissima infanzia non si meraviglia della perpetua diffidenza di Federico verso gli uomini. Ma è anche uomo che non era soltanto diffidente, cioè non aveva soltanto una posizione negativa nei riguardi degli altri, quanto aveva anche un senso del suo riservo e della sua dignità. Avete sentito parlare varie volte in questi giorni del senso e della coscienza che Federico II aveva di sé. Ne abbiamo sentito parlare a proposito della cancelleria e della espressione che la cancelleria voleva e sapeva dare a questa maestà dell'imperatore. Ne abbiamo sentito parlare ieri dal professor Mazzarese Fardella. Quindi un uomo di cui è difficile entrare nell'anima. Ma detto questo, io credo che dobbiamo eliminare il punto di vista di un Federico II a-religioso o anti-religioso. Credo che questo, se non sbaglio, ma potrei appunto discuterne, vada escluso. Vada escluso e qui direi che delle testimonianze precise noi le abbiamo. Noi le abbiamo e dobbiamo stare attenti a saperle esattamente intendere ed interpretare, distinguendo quello che è comprensione e accettazione del fatto religioso dalla a-religiosità o anti-religiosità. E dobbiamo cercare, dobbiamo cercare anche di approfondire il senso di questa religiosità, ricordandoci che nel Medioevo la religiosità veniva sentita più come un fatto positivo e vorrei dire unidirezionale, che non come un fatto generale legato alla tolleranza. Si doveva essere cattolici, ebrei, musulmani, pagani, non si poteva essere comprensivi di questi fenomeni religiosi. È un punto che io credo si debba aver presente se vogliamo interpretare nonché la personalità di Federico II, ma il fatto religioso medievale. Perché dicevo, non possiamo parlare di un Federico II antireligioso? Perché Federico II risulta rispettoso della religione degli altri. È notissima, ma non è male ricordarla ancora, la testimonianza dello storico arabo Alma Crisi, che racconta come, entrato in Gerusalemme, Federico abbia notato con meraviglia che i muezzin non cantavano più il loro appello a Dio ed al profeta, e domanda al capo della città perché questo è accaduto, e si sente rispondere che lo fanno per riguardo a lui che è cristiano. E la risposta di Federico II è interessante: voi dovete continuare a pregare come avete sempre pregato, avete il diritto di farlo. Ma io vorrei aggiungere quella che per me, e mi sarebbe dispiaciuto, scusatemi, ce la faccio entrare un po' di, come dire, quasi a forza, ma che a me sarebbe dispiaciuto che in questa sede non si fosse ricordata, proprio perché dobbiamo parlare poi di un atteggiamento ben diverso verso gli eretici. Non dimenticate che Federico II ha il merito grande, di avere, vorrei dire scientificamente, dimostrata insussistente l'accusa dell'omicidio rituale degli ebrei. Se si legge la Costituzione rilasciata agli ebrei, se non ricordo male, di Norimberga, ebbene, noi vi troveremo una dimostrazione rigorosissimamente condotta, vorrei dire sul piano di fatto e di diritto, della informazione e della testimonianza, della impossibilità di questo fatto. Ma è interessante per Federico II il fatto che a un certo punto egli dica di essersi personalmente preoccupato di leggere i libri degli ebrei per vedervi se di omicidio rituale si parlava, e di essere arrivato alla conclusione che di omicidio rituale presso gli ebrei non c'è niente. E vi è infine l'uso di un argomento, diremmo noi oggi, di pura ragione, che è veramente impressionante dal punto di vista della penetrazione psicologica di Federico II. Ed è l'osservazione in cui egli dice che se gli ebrei considerano impuro toccare il sangue, qualsiasi sangue di bestia, non si vede perché a un certo momento questa impurità dovesse cessare nei riguardi del sangue umano, che non si poteva fare a meno di versare, appunto, anzi si doveva versare nel caso dell'omicidio rituale. Quindi, ancora una volta, rispetto, attenzione e rispetto del fatto religioso. Ma c'è ancora una serie di altri elementi che noi dobbiamo considerare. Voi sapete che una serie di grandi, come vogliamo chiamarlo, circolari, di grandi manifesti di Federico II toccano il fatto religioso, e non abbiamo il diritto di considerarli insussistenti. Il fatto che egli abbia adoperato tutta una serie di argomenti relativi alla Chiesa primitiva, al sentimento escatologico al quale si sono richiamati e il collega Schaller da una parte e il collega Kant dall'altra, e tutta una serie di altri elementi correnti nella vita culturale e politica dell'epoca, servono a chiarire che un'attenzione al fatto religioso in Federico II c'è. Infine, non è l'ultimo degli argomenti, per Federico II la sua personale autorità è un'autorità che indubbiamente è connessa strettamente al fatto religioso, che si tratti dell'auctoritas, è vero, dell'autorità regale, che si tratti del imperiale fastidio. Tutti e due questi aspetti del suo potere sono profondamente legati, o vuole che siano profondamente legati, al fatto religioso. Il suo potere si giustifica su un piano religioso. E allora, se tutto questo, ma potremo, ripeto, discuterne, se tutto questo è vero, noi dobbiamo, se non ci sbagliamo, dobbiamo arrivare ad una precisa conclusione, che la legislazione ereticale, se da una parte si collega indubbiamente alle vicende storiche e politiche del suo regno, della sua vita politica, d'altra parte implicano anche una problematica ed una inquietudine ed una difficoltà di natura religiosa. Vedremo come e perché a un certo momento tutta una serie di osservazioni, di problemi che emergono dalla legislazione anti-ereticale di Federico II, dalle decisioni di Federico II contro gli eretici, come e perché tutta una serie di questi elementi siano stati a un certo momento accantonati o superati. In realtà, noi molte volte, come storici, interessati come siamo ai problemi giuridici, politici, sociali, dimentichiamo che una delle dimensioni ineliminabili del Medioevo è la dimensione religiosa. Sembra sfondare una porta aperta, ma molte volte, prendete i nostri libri correnti di storia, e italiani e non italiani, non so quanti vi dicono che Alessandro III abbandona la Lega Lombarda quando si accorge che l'eresia sta diventando così forte che i vescovi non riescono più ad eliminarla, non riescono più a combatterla e che ha bisogno del braccio, come si suol dire, del braccio secondo. Non sempre si ricorda, vorrei dire, normalmente non si ricorda la connessione tra questo fatto, l'abbandono della Lega Lombarda, e l'altro, poco successivo, che è l'incontro di Verona tra Lucio III, morto ormai Alessandro III, e Federico Barbarossa contro gli eretici 1181. Dunque, presenza di questo fattore religioso, importanza di questo fattore religioso nella complessità della vita medievale tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo, e appresso, insieme, in particolare presenza dell'eresia. Ma era poi davvero così pericolosa questa eresia? Purtroppo ci farebbe tanto piacere oggi avere a disposizione, non so, verbali di, come facciamo per la storia moderna e contemporanea, verbali di prefetti o di giudici o di autorità. Non abbiamo niente di tutto questo, ma abbiamo però delle testimonianze precise. Nella Curia Romana un cardinale, Corrado di Porto, esprime alla fine del XII secolo un autentico e preciso terrore, perché pare che gli eretici catari, albigesi in Francia, come si chiamavano, patareni e patarini in Italia, stanno stringendo un'alleanza con i musulmani per la distruzione della Chiesa romana. Non dimenticate, tanto per ricordare qualche esempio, non dimenticate che città le quali in qualche modo erano sotto l'autorità della Chiesa, facevano parte del patrimonio di San Pietro o erano legate alla Chiesa, erano città in pratica governate da eretici. Viterbo, dove Innocenzo III si reca per un parlamento della Chiesa, si sente, si mostra a un certo momento e si rivela una città piena di eretici, abbiamo nomi e indicazioni, hanno in pratica il potere. Orvieto ha il potere, gli eretici in Orvieto hanno il potere in maniera tale che si possono permettere il lusso di ammazzare, proprio uccidere, il podestà mandato da Innocenzo III. Martire, santo, finché voi volete, San Pietro Parenzo, ammazzato dagli eretici. Milano, nel 1216, ha una tale quantità di eretici, come ci racconta un contemporaneo, Giacomo da Vitri, che fa una specie di viaggio in Italia, e tra l'altro si ferma a Milano, che non esita a chiamarla fossa degli eretici, fovea ereticorum, e ci ha creato un bel problema perché ci dà una sfilza di nomi di eretici di cui non sappiamo in parte neppure che cosa significhino e che cosa nascondano. Insomma, quando un fenomeno preoccupa non delle donnicciole, ma preoccupa personalità come Innocenzo III, che non esita a permettere la crociata e poi la guerra contro gli albigesi che ha insanguinato per 20 anni la Francia del meridionale, quando un Innocenzo III non sa cosa fare contro l'eresia, allora noi abbiamo il diritto di pensare ad una minaccia che la Chiesa sentiva come viva e presente. Nella discussione potrò aggiungervi dei particolari. Vi dirò che, soltanto di sfuggita, vi dirò che accanto alla presenza, vorrei dire di fatto, vi era poi quello che il Medioevo chiamava la fama pubblica, vale a dire le diferie correnti sugli eretici, che ne ingrandivano il numero e la potenza e li rendevano più paurosi e temibili. La lettera di Corrado di Porto, di cui io vi ho parlato, esprime evidentemente una di queste voci correnti. I catari non avevano nessuna organizzazione unitaria, un'alleanza con i musulmani, quali poi non si capisce bene chi potessero essere, il mondo musulmano non era neanche esso unitario, però la voce correva, un cardinale altamente responsabile, vi aggiungo anche Gioacchino da Fiore, tra parentesi, altamente responsabile, se ne fa voce ed eco. Innocenzo III, come aveva combattuto con le armi a un certo momento, perché non c'era stata altra strada, l'eresia albigese nella Francia meridionale, nel quarto concilio lateranense del 1215, cerca di intervenire decisamente contro l'eresia. È una serie di decisioni del concilio, del quarto concilio lateranense, tocca appunto il problema della eresia con una particolare attenzione all'Italia, a tutta l'Europa, ma con particolare attenzione all'Italia. Voi sapete che mentre Federico II ormai è in Germania, ha già vinto Ottone IV a Bouvin, Innocenzo III muore, gli succede Onorio III. Quell'Onorio III che, vi confesso, non riesco a capire perché nei libri di storia ha di solito una cattiva stampa, il Papa mite, il Papa buono, in ultima analisi il Papa che Federico II ha manovrato come egli ha voluto. Devo dirvi che uno degli storici tedeschi del papato più, se voi volete, pungenti e taglienti, ma fra i più penetranti, Johannes Haller, nella sua opera Das Papstum, è uno dei pochi che reagisce a questo giudizio corrente e ricorda agli storici, che troppe volte si impancano a politici e non sempre ci pensano, che non dobbiamo giudicare Onorio III dalle apparenze, ma cercare di capirlo, e di capirlo non come un politico del XX, del XIX o del XX secolo, che sia Bismarck o sia Cavour o Gladstone, ma che dobbiamo cercare invece di capirlo nella problematica e nelle difficoltà del secolo XIII. E quali erano i problemi che Onorio III si trova davanti quando viene eletto Papa? Sono tre problemi fondamentali. Tutti e tre, noi vedremo subito, profondamente legati a Federico II. A questo Federico II, ancora, dicevamo, in Germania, Rex Romanorum, cioè designato alla corona imperiale, non ancora incoronato. E i problemi sono tre. Uno di natura territoriale, il problema dei beni matildini. Noi dimentichiamo che questa benedetta contessa Matilde, morendo nel 1115, lasciò una specie di pomo di discordia tra il Papa e l'imperatore, che è il problema dei suoi beni. Sapete, non vi devo dire cose notissime, sapete che fa suo erede il Papa, ma si trova di fronte al problema dei beni feudali e dei beni allodiali. Il Papa poteva avere i beni allodiali, non quelli feudali. È venuto uno di quei contrasti che è durato esattamente un secolo. Dico 100 anni fa. Quando Onorio III sale al potere, sale al papato, la questione dei beni matildini è ancora sul tappeto. Secondo problema, la crociata che Federico II si era impegnato a realizzare. Crociata che proprio in quel momento aveva particolari difficoltà. Gli anni tra il 1215 e il 1226-27 sono anni particolarmente drammatici per lo Stato crociato, particolarmente drammatici, direi, per un'altalena di trionfi e di sconfitte che hanno, ma riguarda, ci riguarda fra non molto, che hanno il loro momento più culminante nel 1221 con le vicende intorno a Damietta e all'azione non sempre accorta del famoso cardinale legato Pelagio. Terzo problema, l'eresia. La quale eresia? Negli anni di Innocenzo III ha continuato tranquillamente il suo sviluppo e il suo progresso. Mi sia permesso di dire una cosa che soprattutto agli storici francesi riesce difficile far entrare nella testa. L'eresia in Italia è non meno grave, non meno importante di quella della Francia. Gli eretici in Italia non sono meno numerosi e non sono meno preoccupanti degli albigesi della Francia meridionale. Non solo. Ma gli eretici in Italia sono nelle città. E alle città, come potere pubblico, non interessa assolutamente di perseguitare gli eretici. Alle città, ai poteri cittadini, gli eretici non danno nessun fastidio, li eleggono alle cariche pubbliche, li lasciano tranquillamente vivere e possedere, nonostante le decisioni del Quarto Concilio Lateranense, nonostante le scomuniche locali dei vescovi, perché in realtà il potere cittadino si disinteressa in molti casi dei vescovi e ancor più delle decisioni papali. Abbiamo sentito, se mi permettete, un breve inciso, avete sentito parlare dalla professoressa Fasoli della legazione di Ugolino di Ostia. La legazione di Ugolino di Ostia, tra le altre cose, doveva ottenere l'inserimento negli statuti cittadini delle leggi antiereticali di cui ora parleremo. Benissimo, La missione è stata un quasi totale fallimento. Ugolino da Ostia ha avuto grandissimi onori, ma le leggi contro gli eretici negli statuti sono entrati in casi rari, diciamo molto più tardi. Normalmente, in molti, moltissimi casi, si è dovuta appena appena attendere la venuta di Carlo d'Anglia, cioè la seconda metà del secolo e la fine della dinastia di Re. Quindi Innocenzo III si trova di fronte a questi problemi. Ben Matildini, crociata, eresia. E una delle prime cose che egli fa è quello di mandare presso Federico II uno dei, posso dire fino a qualche anno fa, più sconosciuto, ma nello stesso tempo più abili diplomatici che avesse a sua disposizione. Un suddiacono e cappellano a Latrino, che qualche volta è stato confuso, è stato considerato un altro personaggio di Alatri, che non va confuso invece con lui. Alatrino è un nome personale, e questo Alatrino viene mandato a discutere con l'imperatore questi problemi. Devo dirvi che dalla corrispondenza risulta che le cose più importanti venivano trasmesse a voce, diremmo noi oggi la corrispondenza segreta veniva trasmessa per mezzo di messaggeri, quindi non è giunta fino a noi. Ma quello che noi possiamo sapere è che Alatrino discute questi problemi con Federico II ed ottiene in pratica sempre soddisfazione. Per non prolungare il mio discorso, vi dirò che quando Federico II ritorna in Italia, Alatrino ed altri personaggi della Curia Romana ottengono il recupero dei beni Matildini, da allora in poi rimasti alla Chiesa. Federico II rinnova la promessa della crociata e infine si è anche impegnato per la legislazione antiereticale. Ma la legislazione non è soltanto un accordo, è anche una serie di norme giuridiche. Ebbene, le prime leggi antiereticali di Federico II, accennava il professor Schaller, e ripeto anch'io, le prime leggi di Federico II contro le eresie, ma non solo contro le eresie, anche per la libertas ecclesiae, anche contro lo ius albinagi e lo ius naufragi, però queste leggi vengono letteralmente, come dire, trasmesse e accettate da Federico II. Il volume del De Vergottini, di cui accennavo all'inizio di questo mio breve discorso, il volume del De Vergottini ci mostra in maniera chiarissima come non solo Federico II abbia recepito in pieno il testo datogli dalla Curia, che poi era il testo delle decisioni del Quarto Concilio Lateranense, ma le abbia recepite, accolte e fatte proprie in maniera frettolosissima. Le pagine di De Vergottini, in questo libro molto ineguale, ma con delle pagine di una grande efficacia di dimostrazione, fanno vedere all'evidenza che proprio si è trattato di un testo preparato molto in fretta dalla commissione, un cardinale, il cardinale Nicola, con Alatrino ed un altro personaggio della Curia, che sono andati incontro a Federico II e hanno insieme evidentemente elaborato questo testo. È il testo che voi avete qui nella prima vostra fotocopia. A pagina 5 dobbiamo naturalmente Pagina 4. Dobbiamo naturalmente, purtroppo è vero, questa legge dell'incoronazione sarebbe interessante vederla insieme, ma è interessante vedere pagina 4, paragrafo 5. Porro, Cataros, Paterenos, Speronistas, Leonistas, Arnaldistas, Circuncisos, et omnes hereticos utriusque sexus, quocunque nomine censeantur perpetua damnamus infamia, diffidamus atque bannimus. Censentes ut bona taliam, talium confiscentur, necadeos ulterius, revertantur, eccetera, eccetera. Statuimus et, nel numero 6, statuimus etiam hoc edicto, in perpetuo valituro ut potestates et consules seu rectores, quibuscunque fungantur officiis, pro defensione fidei prestent publice iuramentum, quod deterris sue iurisdizioni subiectis, universos hereticos ab ecclesia denotatos, bona fide, pro viribus exterminare studebus. Ita quod amodo, quando cunque quis fuerit in potestatem perpetuam vel temporale ma subtus, hoc teneatur capitulum iuramento firmare. Quindi, voi vedete, se voi prendete il testo del Concilio Lateranense, del quarto Concilio Lateranense, corrisponde quasi alla lettera. Mi permetto di farvi notare, il testo mi sembra piuttosto facile, due fatti. Primo, l'elenco di eretici che voi trovate qui al numero 5 di pagina 4 è un elenco preso di peso dalla legislazione ecclesiastica. Cataros e Paterenos sappiamo chi sono, gli speronisti sono i seguaci di un eretico piacentino, Ugo Speroni, i leonistas sono i poveri di Lione, cioè i valdesi, ma la cosa veramente per un italiano impressionante è che alla fine del XII secolo si nominino ancora gli arnaldisti. State tranquilli che non ce n'era più neanche uno. È un testo che riprende dei nomi senza badare davvero che a questi nomi corrisponda qualche cosa. Lo stesso si dica dei circuncisos, sono degli eretici ebraizzanti che io ho studiato anni fa e che forse in questo periodo esistono ancora, ma non si capisce perché siano ricordati, non hanno mai avuto nessuna importanza nella vita religiosa italiana, tanto che non compaiono, a mia conoscenza, in neppure uno solo documento. E sono più noti con il nome di Passagini, nome la cui interpretazione etimologica ci è ignota. E allora, state attenti, in questa legge che riprende le decisioni del Concilio IV Lateranense, gli eretici vengono sottoposti alla pena dello sbandimento, al bando. State attenti che quando più tardi, nel paragrafo 6, voi trovate il termine universos, al quarto rigo del paragrafo 6, universos hereticos ab ecclesia denotatos bona fide proviribus exterminare studebunt, come giustamente ci avverte il De Vergottini, è doveroso dirlo che lo ha notato lui, non dovete intenderlo nel senso italiano dello sterminare, cioè distruggere, ma nel senso etimologico di espellere extra terminos, cioè ancora una volta di bandirli, di metterli fuori dei termini, dei confini della città. Senza insistere, purtroppo non possiamo trattenerci a lungo su questo punto, diciamo che nel 22 novembre 1220, all'atto della incoronazione, Federico II, che ha bisogno dell'appoggio papale perché deve veder riconosciuta la elezione del figliolo Enrico al re dei Romani, perché deve vedere accettata la sua posizione di imperatore e di re di Sicilia, diversamente da quanto aveva impegnato con Innocenzo III, Federico II dunque accetta in pieno il testo datogli dalla Chiesa e, come voi vedete, si parla di bando, si parla di infamia, di espulsione dalla città, di morte non si parla affatto. Devo aggiungervi che successivamente la situazione tra Federico II e il Papa, ho l'impressione che ne manchi uno dei testi, vediamo un po'. Mi pare che ne manchi uno. Quello del 1224 manca. Quello di Catania. Era sempre nel primo, nel 2, sì, però forse è più oltre. Ah sì. Guardate, oltre la pagina 6, dunque gli ultimi tre fogli. Marzo, Catania, pagina 421. Ora, che cosa accade dopo il 1222? Da una parte, vi aggiungo subito, la guerra contro gli albigesi è sempre più accanita e non riesce a finire. D'altra parte, gli eretici in Italia sono sempre più forti. Noi abbiamo una serie di elementi che ce lo chiariscono. I vescovi sono incapaci di dominare l'eresia. La Chiesa non ha la forza di controllare gli eretici e le città non si preoccupano della repressione dell'eresia. Gli ordini dati ai podestà, ai rettori delle città, di proposte viribus exterminare, eccetera, eccetera, di espellere gli eretici, sono rimasti letteralmente lettera morta. E la Chiesa compie il passo, diremmo noi oggi, definitivo, il ricorso alla pena che nell'opinione pubblica finisce sempre per ritenersi la più paurosa, la pena di morte. La pena di morte che viene chiesta all'imperatore in un momento particolarmente delicato. Ecco perché io, cominciando il mio discorso, ho accennato al fatto che l'imperatore agisce, almeno in questo primo momento, agisce sotto la diretta pressione della Chiesa. Che cosa è successo a Federico II dal 20 al 24? Come mai nel 24 vi è questa costituzione? È casuale? O che cosa la Chiesa ha dato e dà a Federico? Voi sapete che Federico, subito dopo l'incoronazione, rientra nel regno, riordina nella dieta di capo, ottiene la recuperazione dei feudi maldati o maltenuti, ma proprio in relazione a tutto questo ha una vera e propria guerra, anzi ne ha due, se non contemporanee quasi, l'una nell'Abruzzo contro il grande conte di Celano, uno dei più potenti feudatari del regno, quello che gli farà passare per sempre la voglia di avere dei grandi conti, e nello stesso tempo la ribellione dei Saraceni. Sono due grossi eventi che impegnano tutta la sua energia e la crociata non si fa. Hermann von Falza viene più volte inviato dal Papa per ottenere rinvii di questa crociata. Ma nel 1222 muore la regina Costanza, la imperatrice Costanza, e Federico II cerca una nuova moglie. Questa moglie, tramite, credo di poter dire con certezza, Hermann von Falza, questa moglie viene trovata nella persona della, credo, quattordicenne o tredicenne Isabella di Brienne, che ha con sé il titolo, piuttosto nominale che reale, il titolo di regina, cioè di re di Gerusalemme, e tramite il Papa si concorda che questo titolo di re di Gerusalemme passi a Federico II. Ma nello stesso tempo il Papa ha, oltre alla crociata, oltre alle negoziazioni per il matrimonio, tutta una serie di grossi rimproveri. E qui il professor Campo, se fosse presente, potrebbe dirci, con la conoscenza dei particolari precisi che gli ha delle singole chiese dell'Italia meridionale, che in questo momento Federico, più che mai, anche perché ha bisogno di denaro per le spese delle operazioni militari, più che mai usa ed abusa del diritto di tenere diocesi vacanti, di esigere denaro anche da ecclesiastici, insomma, tiene in pugno piuttosto duramente la Chiesa, suscitando le proteste del Papa. Proprio quasi contemporaneamente a questa Costituzione, noi abbiamo una lettera di Federico II a Onorio III, in cui cerca in qualche modo di placare lo sdegno del pontefice. In realtà, il pagamento, il conto di questo sdegno e di queste trattative politiche e non, è proprio questa legge contro gli eretici. Legge contro gli eretici, la quale stabilisce per la prima volta su tutto, sul territorio dell'Italia, della Lombardia, stabilisce la pena di morte, e la stabilisce con delle motivazioni molto precise, cioè che essi, l'eretico, opera contro la fede e l'unità, per cui deve essere colpito materialmente, deve essere colpito con la pena di morte mediante il fuoco, e se dovesse essere risparmiato nella vita dovrebbe avere tagliata la lingua. È la prima Costituzione nella quale viene precisamente indicata la pena di morte, nella quale, diciamo così, debba trovarsi il punto di partenza di cui dicevamo, di questa terribile serie di roghi, perché la pena di morte mediante il fuoco viene stabilita proprio in questo modo. Purtroppo, mi dispiace, non abbiamo la possibilità di leggerlo, però alcuni punti forse sarebbe interessante sottolineare, specialmente l'inizio, come si suol dire, l'arenga, nella quale la motivazione emerge chiara, pagina 422. Cum ad conservandum pariter et fovendum ecclesiastice tranquillitatis statum, ex commisso nobis imperii regimine, defensores simus ad homino constituti, non absque iusta cordis admirazione perpendimus, quod hostilis invale a Teresis, pro pudor in partibus Lombardie, quae plures inficiat, et per ora blasphemantium contra decus ecclesiae et catholice fidei documenta, state attenti, ex impunitate, sumat audaciam insultandi. Qui voi trovate chiaramente espresso il concetto che la decisione viene presa da una parte perché è dovere dell'autorità imperiale e regia di colpire quello che turba lo statum tranquillitatis ecclesiae, cioè l'unità della fede. Secondariamente, l'altro motivo per cui egli è obbligato a rivolgere da Catania nel marzo del 1224 questa costituzione è la impunità, perché vuol dire che le autorità locali, quelle cittadine, ma potremmo tranquillamente aggiungere anche la feudalità, quella che aveva ancora potere, non si preoccupano minimamente della persecuzione dell'eretico. Cioè, la Chiesa è impotente contro l'eresia, Federico II sente suo dovere di intervenire in proposito. Da quello che segue si ha l'impressione che in realtà questa repressione dell'eresia sia stata ben più difficile di quello che non sembra. La storia della persecuzione della eresia è nel 200 da parte della Chiesa una serie di insuccessi, diciamocelo chiaro e tondo. Nel poco dopo questi anni, nel 1231-34, viene stabilito il cosiddetto tribunale, o meglio, la cosiddetta inquisizione degli eretici. Permettetemi di dirvi, questo non posso darvene qui la dimostrazione perché sarebbe un lungo discorso, permettetemi di dirvi, l'inquisizione è stato un autentico fallimento. È riuscita a unire in maniera singolare in Francia meridionale, ma non solo in Francia meridionale, cattolici ed eretici, perché gli uni e gli altri erano perfettamente dello stesso parere, non volevano, soprattutto nella Francia meridionale, non volevano i domenicani come inquisitori. Noi abbiamo indicazioni precise le quali dimostrano nella maniera più categorica che le popolazioni della Francia meridionale hanno fatto l'impossibile per non avere inquisitori. Vi posso dire che lo stesso accade in Italia. Anzi, in Italia noi abbiamo testimonianze indubitabili che i cittadini combattono armata a mano contro gli inquisitori, che è un inquisitore, se non mi sbaglio, Domenico Calcagni, che prende botte da orbi dovunque vada. Era poverino, un inquisitore coscienzioso, faceva bene il suo dovere, le popolazioni reagiscono in maniera violentissima. Da Orvieto lo buttano fuori dal convento, devastano il convento, i suoi superiori giudicano opportuno trasferirlo a Firenze. Più tardi a Firenze succederanno altrettanti guai, è vero, fino al punto che poi è dovuto andare via, poi a un certo momento scompare dalla scena della storia. Cioè, la solenne costituzione imperiale diretta al legato dell'impero in Lombardia in realtà non ha l'effetto sortito. Federico II, lo vedremo subito, nel libero delle costituzioni è costretto a riprendere, prendete qui il terzo dei quello che non è numerato, insomma, e a un certo punto voi vedrete che il primo titolo del primo libro del Liber Constitutionum, delle cosiddette costituzioni melfitane, comincia con una solenne, non possiamo pregare il professor Schaller di analizzarci dal punto di vista dello stile questa costituzione, ma indubbiamente solenne, in consutilem tunicam dei nostri dissuere conantur eretici et vocabuli vitio servientes, quod significationem divisionis enunciat, in ipsius indivisibilis fidei unitatem, conantur inducere sectionem. Et oves a Petri custodia, cui fascende a pastore bono sunt credite, segregare. Stilisticamente credo che si possa dire splendido. Ma è splendido anche per una serie di concetti che noi troviamo qui enunciati e che ci portano a quel secondo punto ed ultimo del nostro discorso, alla comprensione della psicologia, dei moventi profondi che a un certo momento, accanto ai motivi politici, inducono Federico II a questa decisione di perseguitare gli eretici. Permettetemi di ricordarvi che vi è stato uno scontro profondo tra Federico II e Gregorio IX, ne abbiamo già parlato, vado di corsa su questo punto, per la crociata in Palestina. Vi è stato il lungo processo di trattative che mette capo al Trattato di San Germano. Le Costituzioni sono in fondo il primo grande atto legislativo che predispone, come abbiamo detto, al riordinamento del Regno. Ebbene, qui noi ci accorgiamo che la motivazione della persecuzione non è più una motivazione, vorrei dire, pratico-politica. Io sono il difensore della Chiesa, mi incombe l'obbligo di mantenere la tranquillità dello Stato ecclesiastico, poiché gli eretici sono impuniti, allora li devo punire io. No, qui voi avete una precisa motivazione di natura, vorrei dire, di filosofia dello Stato e di teologia della Chiesa. La Chiesa è un'unità nella quale è impossibile introdurre delle divisioni. Scusatemi se io vi sottolineo che viene qui indicato anche l'etimologia di heresis, che significa appunto divisione, vero? Presa di posizione differente dalle altre. E allora questi eretici dividono l'unità della Chiesa, ma quello che è più grave, vogliono di distaccare le pecorelle affidate, il gregge di pecorelle affidate alla Chiesa dalla custodia di Pietro, cioè del Papa. E purtroppo non possiamo analizzarla dal punto di vista anche del dettato, perché è splendida. I sunt lupes, lupi, solo leggiamo un paio di righe per vedere, vero? I sunt lupi la pace intrinseci e usque magnitudinem mansuetudinem ovium pretendentes, quousque possint ovile subintrare dominicum. Vi devo dire che lo stile è splendido, ma vi sono anche delle indicazioni sotto la eleganza del dettato, vi sono delle indicazioni anche storicamente molto esatte e precise. Questa abilità degli eretici di camuffarsi, cioè di camuffarsi, di presentarsi come buoni cristiani per sedurre gli altri fedeli, è documentato da una quantità enorme di testimonianze, tanto che se mi chiedeste di darvene sarei imbarazzato perché ne ho troppe. I sunt angeli pessimi, i sunt filii pravitatum a patrie nequitia et fraudis auctore ad decipiendas simplices animas destinati, eccetera eccetera. E non meno interessante è l'analisi dei nomi. Scusatemi, è vero, io qui devo parlare di Federico II, quindi non mi ci soffermo, ma la invenzione del nuovo nome, qui ci sono echi, per esempio, di pagine di San Bernardo, abilissimamente ricucite. Ebbene, contro di questi, ancora una volta, viene stabilito, badate, nel regno di Sicilia, lo stesso reato contro, è vero, i traditori, i perduellioni. L'eresia è equiparata al delitto di ribellione e di tradimento. È, voi sapete, un punto che Federico II stabilisce in questa Costituzione e che poi ha applicato concretamente, però al tempo della ribellione di Messina, ha applicato in pieno questa decisione. Le decisioni prese da Federico II contro gli eretici continuano ancora, ne abbiamo una che riguarda tutto l'impero nel 1232, che in qualche modo riprende piuttosto quella precedente, quella che abbiamo letto contro gli eretici di Lombardia, ma questa volta si riferisce alla Germania. Noi sappiamo che in questo momento in Germania noi abbiamo avuto una ripresa della eresia contro la quale Federico II interviene. Ma ormai è il tempo un po'. Dovrei dirvi che poi queste costituzioni sono state riprese nel 38-39 e per dimostrare contro le accuse del Papa che egli, nonostante tutto, nonostante le accuse che gli venivano rivolte di empietà, di essere quello che aveva parlato dei tre impostori, era sempre fedele alla dottrina della Chiesa. Ma a questo punto noi dobbiamo per un momento avviarci alla conclusione. Noi abbiamo notato che le prime decisioni di Federico II nascono, direi, dalla necessità delle cose. Federico accetta, diciamo con una certa passività, o meglio, come un dato di scambio, non diciamo con una certa passività, come un dato di scambio, punizione degli eretici e crociata per riconoscimento della successione ereditaria e, diciamo pure, paga un prezzo territoriale non poco caro con la cessione dei beni matildini. Ma ancora nel 24 questo motivo è presente. In un momento delicato dei rapporti col pontefice, la decretale, la Costituzione contro gli eretici di Lombardia è la testimonianza che vi è una, come si dice, disponibilità dell'imperatore alla volontà del Papa. Nel 31-32, anche se queste costituzioni indubbiamente si inseriscono in una trattativa politica e ne costituiscono uno degli elementi, però ricevono una giustificazione più profonda e più nuova. E ritorniamo a quanto accennava il professor Mazzarese Fardella ieri alla fine della sua prima lezione. Vi è, diciamo, sempre più chiaro in Federico II, ma è cosa che si dovrebbe approfondire, si può fare forse persino in questa discussione, ma io ho l'impressione che dopo, verso tra il 31 e il 34, man mano che Federico II si accorge della difficoltà di stabilire col Papa rapporti di vera e reciproca collaborazione, pur se fra il 31-32 e il 38-39 gli accordi sono stati abbastanza, i rapporti sono stati abbastanza tranquilli, egli ormai pensa ad altro. Soprattutto nel Regno di Sicilia egli tende a realizzare questa unità nella molteplicità degli organismi dello Stato, nella molteplicità delle dignità, delle cariche e degli organismi pubblici. Vorrei dire questo. Federico ha un profondo senso del suo potere, è un senso del quale prende, diciamolo pure, gradatamente e sempre più chiaramente coscienza. Bisognerà un giorno, studiando Federico II, cercare di cogliere più il momento dinamico della sua personalità che non come si è cercato sempre un po' finora di fare, e un po' abbiamo fatto anche noi oggi, lo faccio anch'io un po' in questo momento, quello di unificare come se Federico II fosse stato sempre lo stesso da quando aveva 20 anni, 24 anni, 22, 26 anni e torna dalla Germania fino a quando ne ha 56. In realtà, anche nella legislazione antieretticale, se non mi sbaglio, noi passiamo da una personalità che in qualche modo si lascia dirigere dalle circostanze e dagli eventi, che in qualche modo opera secondo le circostanze e gli eventi, ad una personalità che si sforza sempre più in base ad una coscienza del proprio valore, del proprio diritto e del proprio potere di affermarlo fuori di sé. E abbiamo quindi, soprattutto sul piano religioso, questo sforzo della reductio ad unum. Sforzo nel quale, in fondo, la Chiesa gli è perfettamente a fianco. Perché questa reductio ad unum non è soltanto interesse dell'imperatore, ma è interesse anche della Chiesa. E allora l'eresia e il tradimento sono le due separazioni nel corpo unitario dello Stato, o diciamo meglio, della Repubblica, e nel corpo unitario della Chiesa. Noi abbiamo sentito ieri parlare più volte che le decisioni da prendere devono essere quelle che più servono al bene, diciamo così, dello Stato. Ebbene, questa coscienza domina a un certo punto anche le decisioni di Federico II sul piano della legislazione antiereticale. E forse qui cogliamo, se mi permettete una parola un po' melodrammatica, forse qui noi cogliamo la tragedia della personalità storica di Federico. Perché questa personalità, che nel prosieguo del tempo viene sempre più prendendo coscienza della capacità e della volontà unitaria sul piano politico come sul piano religioso, si è trovato a dover combattere con una pluralità di organismi politici nel Regno di Sicilia, come in Germania, come nel Regno di Avola. Germania significava Boemia, Germania significava ordine teutonico, Germania significavano i grandi principati laici ed ecclesiastici. Quest'uomo, cioè, la cui tendenza era quella di organizzare in una linea unitaria, si trova con un mondo molteplice, con il quale egli non combatte, ma si trova in una tensione continua, in uno sforzo che io vorrei dire ne ha logorato l'esistenza. Può darsi che questa indicazione, non oso dire presentazione, ma che questa indicazione della personalità e del dramma della personalità di Federico II vi possa sembrare estremamente tanto più diversa da quella così affascinante del superuomo che vi dà il Cantori. Io vi devo dire che dopo una non oso dire competenza, ma dopo una lunga familiarità con Federico II, sento questa drammaticità come uno dei suoi aspetti più affascinanti, perché a un certo punto mostra quello che a noi interessa, che a noi storici e studiosi di storia, appassionati di storia, interessa di più. Mostra il volto umano. Troppe volte si parla della demonicità del potere. Ebbene, certo, anche in Federico II questa volontà demoniaca, se voi volete, di affermarsi, di decidere, di agire, sarà spietato con i ribelli di Messina, sarà spietato, spietatissimo con i ribelli di Casaccio, sarà duro e implacabile contro Milano. Ebbene, io non accetterei l'aneddoto che Salimbene, che in fondo era malignetto, fa. Dice: io ormai non posso più ritirarmi dalla lotta contro i comuni lombardi perché altrimenti faccio una brutta figura, come si dice oggi, perdo la faccia. Federico II è spregiudicato. Guardate che se voi leggete le trattative per la pace di San Germano, Federico II manda giù, scusatemi il termine italiano, dei rospi, prende delle amarezze ben gravi e le accetta tranquillamente. In realtà c'era un punto sul quale non poteva transigere senza rinunciare a quella che era maturata come sua convinzione profonda, cioè la riduzione all'unità del suo Stato, una unità nella quale egli accettava e vedeva la molteplicità, ma in cui sentiva l'esigenza di questa convergenza organica di cui, e questo è l'ultimo punto che io vorrei sottolineare, di cui egli si sentiva il portatore e il mediatore. Qui, in questo essere portatore e mediatore dell'unità nella molteplicità, noi abbiamo il senso della sua grandezza e nello stesso tempo i limiti della sua realizzazione concreta. È un uomo che si trova a vivere in un'epoca molteplice nel suo sforzo unitario. Badate, il dramma di Federico II sul piano dell'impero sarà dopo pochi decenni. Badate, lo stesso dramma e la stessa tragedia di Bonifazio VIII sul piano politico, che sul piano religioso, che nella complessità del mondo religioso dell'Europa vorrà una riduzione all'uno che gli sfugge e gli scappa di mano. Quindi, drammaticità, io concluderei così, della personalità di Federico II, anche per quello che risulta dalla sua legislazione anti-eretica. Grazie e scusatemi se dicevo ieri sera motus infine velocior, e allora abbiamo subito ripreso il nostro lavoro ed io sono qui pronto a rispondere o a richieste di chiarimenti o, se è necessario, a fare delle aggiunte o anche a vedermi respinto tutto quello che io ho detto. Il mio, avete visto che alla fine vi era un tentativo un po' generale, un tentativo un po' globale, che in qualche modo coinvolgeva tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni, quindi la discussione è senz'altro, come dire, aperta a tutti gli aspetti del problema. Quindi, se qualcuno ha bisogno, prego. No, è leider ein Fragen. Sie haben zu Anfang betont, dass in Italien die Heresie genauso stark verbreitet gewesen wäre wie in Frankreich. Also entgegen einer oft geäußerten Annahme, dass in Frankreich eine stärkere Heresie besteht. Ist es aber nicht so, dass in Frankreich die Heresie vornehmlich im südlichen Teil bestanden hat und und gleichzeitig ein politisches Problem war, was vielleicht in Italien anders gelagert war. Denn wenn man noch heute in Südfrankreich ist, dann hat praktisch die Einverleibung Südfrankreichs durch Nordfrankreich mit dieser Ketzerbekämpfung begonnen. Ja, ja. Lei pone un problema che è centrale e che in fondo tocca anche quello che noi abbiamo affrontato. La domanda che mi è stata rivolta, io la ripeto per vedere se ho capito bene, perché non sempre l'acustica mi aiuta. Il problema che mi è stato posto è questo. Io ho detto in Italia la eresia non è meno importante, anzi per certi aspetti altrettanto importante e più forse che in Francia. Ma in Francia, mi si diceva, il problema non è soltanto religioso, è un problema anche politico. Attraverso la eresia e la crociata contro gli albigesi si è avuto nella Francia meridionale una annessione del sud al nord. In Italia le cose sono andate diversamente. Ho capito bene? Ora, noi dobbiamo, per risolvere il problema, dobbiamo tenere presente che la Francia meridionale è in buona parte, come si diceva ieri, uno stato feudale, dove esistono però delle grosse città che hanno una organizzazione analoga, se non identica, a quella dei comuni italiani. E allora noi abbiamo avuto una presenza di eretici in città e nelle corti principesche e in qualche parte della campagna. Il fatto che gli eretici avessero presenza notevole, impegnata nelle corti principesche, dava all'eresia un grosso peso, un grosso impegno. Il conte di Tolosa aveva fra i suoi valletti l'omicida, l'assassino del vicario, del legato papale Pietro di Castelnuovo. Il conte di Foix, uno dei più grandi feudatari della Francia meridionale e della Francia intera, perché controllava pressappoco il territorio che da pochi chilometri da Tolosa arriva ai Pirenei, aveva una sorella che era pubblicamente eretica. Numerosi signori della Francia meridionale appoggiavano l'eresia. Ora, attenti, la crociata è partita come fenomeno religioso, come crociata in terra cristiana, perché è diventata guerra di annessione. Qui entra il grosso problema metodologico dell'individuo nella storia, del caso, del Zufall in der Geschichte, dell'individuum in der Geschichte. Perché? Perché alla morte del Visconte, alla deposizione e poi alla morte del Visconte di Albi Béziers, viene nominato come visconte di Albi Béziers un francese, il notissimo Simon de Montfort, il quale, una volta avuto il feudo, fa l'impossibile per non lasciarlo più e inizia una serie di legami politici con la Francia che sono stati legami politici del solo Simone di Montfort. Filippo II Augusto per molti anni non ha voluto saperne assolutamente, perché è una notizia molto nota, egli diceva di avere ai suoi fianchi due leoni, esattamente Ottone IV e Federico II da una parte, e dall'altra aveva il re d'Inghilterra, e non poteva togliere le sue forze per la Francia meridionale. Quando però lentamente i vari signori della Francia meridionale, per la politica di Simone di Montfort, sono stati sostituiti con signori francesi, e quando si giunse ad un accordo tra a Filippo II Augusto e Federico II, ed è eliminato Ottone IV, solo allora Filippo II Augusto comincia a interessarsi della Francia meridionale e inizia il piano della annessione. Proprio per questo io però vorrei sottolineare energicamente un fatto: la crociata non ha in realtà distrutto l'eresia, la crociata ha avuto scarsissimo effetto sull'eresia, anzi ha creato un paese unito contro i francesi. Cattolici ed albigesi erano nazionalmente uniti contro i francesi. Noi abbiamo la testimonianza della chanson, la canzone della Croisada, che dice chiaramente: maledetti i preti che hanno fatto venire i francesi contro i francesi, contro gli eretici. Gli eretici, se una colpa hanno, è quella di avere fastidito i preti e provocata l'invasione. Neppure l'Inquisizione dominerà l'eresia. Per me, sia nella Francia meridionale, sia in Italia, la vittoria dell'eresia, la vittoria sull'eresia, non è né la forza politica né l'Inquisizione. È stata un'illusione del Papa l'appoggio che l'eresia poteva finire con l'appoggio del potere secolare. In realtà i vincitori dell'eresia sono stati gli ordini mendicanti, francescani e domenicani. Per quello che riguarda l'Italia, la repressione dell'eresia era praticamente impossibile dal punto di vista del potere politico. Perché? Perché i vescovi non avevano forza politica. Nel 200 i comuni sono completamente autonomi dal vescovo e quindi i vescovi non hanno potere nelle città. Ma le autorità cittadine sono molto spesso eretici. Il caso più famoso, il caso che a me sembra sempre impressionante, è che colui il quale è stato il mandante noto, pubblico, dell'assassinio di Pietro da Verona, il cosiddetto San Pietro Martire, e che apparteneva alla famiglia Confalonieri, tutta la sua vita è entrato e è uscito da Milano come gli piaceva. Nessuno gli ha mai dato noia. Quando vedeva che c'era qualche pericolo, andava via dalla città. Appena il pericolo passava, rientrava in città ed è morto tranquillamente, infischiandosi di scomuniche di santi, di papi e di vescovi. Questo significa che fino alla seconda metà del 200 l'eresia in Italia aveva praticamente mano libera. Ricordavo or ora che quando il Papa ha tentato di introdurre l'Inquisizione domenicana nelle città italiane, c'è stata una insurrezione generale dei cittadini, tanto che il Papa ha dovuto sostituire i domenicani con i francescani. La testimonianza ancora più interessante è che in Italia le città che hanno avuto più eretici, e noi lo sappiamo, Cremona, Pisa, Milano, Vercelli, Cuneo, non hanno un documento sugli eretici. Perché? Per avere documenti sugli eretici bisognava processarli, ma se non erano processati noi non abbiamo documenti. Pisa, che alla fine del 200 aveva ancora la presenza continua di un gruppo di eretici sicuramente accertati, come ho mostrato io in un documento, per Pisa, che ha avuto eretici sicuri dalla metà del XII secolo fino al 1280, ha 3, 1, 2 e 3 documenti sugli eretici, che si riferiscono non a processi contro gli eretici, ma a beni di eretici in Pisa. Quindi è un problema che aiuta a capire la preoccupazione dei papi da una parte e l'intervento, a mio avviso, velleitario anche del potere politico centrale imperiale. L'imperatore non poteva mandare le sue truppe nelle città. Non riesce a conquistare Milano, non riesce a controllare gli eretici in Milano. È chiaro? Prego. Per quello che riguarda il Regno Sicilia, invece, la legislazione federiciana è stato qualcosa di concreto, cioè si è applicata, oppure, e in quali termini si è applicata? Soprattutto se esistono delle reti documentali di processo inquisitoriale? La cosa è assolutamente facile. Noi abbiamo delle notizie di eretici nel Regno di Sicilia soltanto dal tempo di Carlo d'Angiò, ma io non sono del tutto convinto che gli eretici di cui parla Carlo d'Angiò non siano dei rei per duellionis dello stesso tipo di cui si parlava a proposito di Federico II. Comunque, una di queste cronache, io adesso non ricordo bene, se non sbaglio Saba Malaspina, ma posso sbagliarmi, ci dice che Carlo d'Angiò reprime l'eresia, ma è una notizia che per me è perlomeno dubbia. Di solito le notizie relative ai viaggi di eretici non riguardano mai l'Italia meridionale. Noi abbiamo molti documenti della Francia meridionale in cui eretici ci raccontano i loro viaggi attraverso l'Italia. Non arrivano mai al sud di Firenze. Quindi non è neanche dimostrabile quella affermazione che viene fatta qui, che dice che praticamente dall'Italia settentrionale, cioè dalla Lombardia, arrivano questi rivoli di eretica. Cioè, individualmente. Attento, il fatto che noi non abbiamo documenti che attestino questo fatto non significhi che noi dobbiamo negar fede a quello che qui dice Federico II. Devo sapere se è possibile individuare quali sono questi correnti radicali, oppure se esistono dei centri autoctoni di... Guardi, adesso è un po' difficile, quando non ci sono documenti, inventarseli. Diciamo che la corrente ereticale che faceva paura, la corrente ereticale che poteva smuovere, diciamo pure, un uomo come Federico II a preoccuparsi di certe cose, non può essere se non quella catara. I valdesi sono pochi e poi a un certo momento, dopo le prime condanne, scompaiono perché si mimetizzano. Quindi gli unici eretici, che gli altri di cui avete sentito i nomi, circoncisi, passaggini, arnaldisti, sono puri nomi senza sostanza, sono rimasti puri nomi. L'unica cosa, gli unici sono catari. Se proprio vuole un altro elemento, io potrei dirle che nella seconda metà del XII secolo si parla di un eretico che arriva, di un certo Marco di Lombardia, che arriva fino a Napoli. Personalmente ritengo che sia non una falsa lettura del manoscritto, ma sia una parola copiata male, perché è un viaggio stranissimo di un personaggio che si muove sempre nell'Italia settentrionale e che non si capisce bene perché, dovendo andare nella penisola balcanica, viene a Napoli, quando poteva andare ad Ancona, a Brindisi o cose del genere, come del resto facevano tutti. Ma è rimasto fuori Federico II. Prego. Io vorrei fare due domande. La prima, Federico II, dopo aver messo questa esitazione, ha veramente agito secondo l'esitazione, cioè nel Regno di Sicilia ci sono testimonianze di condanne a morto di eretici? Questa è la prima domanda. E la seconda, un aspetto forse importante, l'eresia in che cosa consiste? Se uno guarda la prassi religiosa dell'inizio del 500, vede una grande quantità di cose pagane, diciamo, quel che riguardava il popolo minuto e anche nei monasteri. Ho in corso di stampa un libro su questo problema. Sì. E l'eresia allora in che cosa consisteva? A mio parere è la insubordinazione dell'eretico all'autorità ecclesiastica, cioè l'eretico non obbediva, e quindi è forse più facile capire perché nella recitazione di Federico II c'è questo giudizio molto severo, che anche per lui il peccato mortale contro lo Stato era l'insubordinazione. Cosa ne pensa? Ecco, dunque distinguiamo i due punti. Primo punto: se e fino a che punto Federico II personalmente ha perseguitato gli eretici. Vi sono delle testimonianze, non molte, ma due o tre volte, se non ricordo male, interviene contro gli eretici. Mi pare adesso una volta a Brindisi, un'altra volta c'è un eretico ricordato nel registro di Federico II e un'altra volta ancora. Ma dobbiamo tener presente che, come dicevo ora, nel Regno di Sicilia gli eretici erano relativamente parlando pochi. Nel resto dell'Italia il problema era che la persecuzione degli eretici viene delegata agli enti e alle autorità cittadine, le quali si comportano come vogliono. E allora avete questa strana situazione che alcune città ghibelline, fedelissime all'imperatore come Cremona, non hanno, o Pisa dicevo ora, non hanno toccato un capello a un eretico. Abbiamo su questo punto una testimonianza addirittura quasi divertente. A un certo momento i francesi, mi rivolgo a lei, assediano un buon numero di eretici tolosani in un castello all'inizio dei Pirenei, a Monsegur. Ebbene, in Italia si sa di questo fatto, l'assedio è durato molti mesi ed è stato celeberrimo, e allora noi abbiamo notizia documentata che un nuntius ereticorum, si chiamavano così i messaggeri che tenevano le relazioni fra le varie comunità, un nuntius ereticorum viene mandato a Monségur, passa attraverso le truppe assedianti ed entra nel castello e dice al vescovo di Tolosa e ad altri, diremmo noi, ad altre autorità religiose del Monse che erano lì: venite a Cremona, ubi possatis, quiete et secure vivere. E questo episodio è esattamente databile, l'assedio del Monségur è del 1244. Quindi nel 1244 un eretico tranquillissimamente viveva con viveva a Cremona. Lo stesso si dica, per esempio, Ezzelino, che era fedelissimo a Federico II, non ha minimamente toccato gli eretici, che a noi risulti. Se adesso non ricordo male, addirittura, se, ma non sono sicuro, addirittura la sua casa era vicina a quella di un eretico. Quindi lo sapeva benissimo che era eretico e non ha disturbato, non lo ha mai disturbato. Mentre invece, se qualche persecuzione si ha, ma fino al 1266, credetemi, sono pochissime, e nelle città guelfe e nelle città ghibelline, se qualche persecuzione si ha, è nelle città guelfe. Firenze, che ha in questo momento una vita molto agitata tra guelfi e ghibellini, ha nello stesso tempo una lotta contro i guelfi, e una lotta che è ghibellina e guelfa insieme. Noi sappiamo che il grido di guerra dei guelfi fiorentini era: muoiano lì patarini ghibellini. Questo come per quello che riguarda un po' la prima domanda, cioè queste costituzioni di Federico II, che per esempio in Germania ebbero durissima applicazione ad opera di Conrad von Marburg, tanto che il Papa dovette intervenire per calmarlo, in Italia praticamente hanno avuto una applicazione molto debole. In realtà una vera, organica e sistematica lotta agli eretici si è avuta solo con l'inizio della preponderanza angioina in Italia, che non è soltanto, voi sapete meglio di me, non è soltanto dominio del Mezzogiorno d'Italia, del Regno di Sicilia, ma è anche una preponderanza politica italiana. Cuneo finisce nelle mani di Carlo D'Angiò, e Carlo D'Angiò certamente, anche per l'alleanza che aveva col Papa, certamente non appoggiava gli eretici. Questo direi che si può escludere. Per quello che riguarda il secondo punto, cioè il senso, il significato storico della presenza dell'eresia all'interno della comunità, diciamo così, del tempo, della prima metà del 200. Veda, io sarei sempre molto attento nel distinguere, se ho ben capito lo spirito della domanda, nel distinguere tra politico e religioso. Indubbiamente, soprattutto nel Regno di Sicilia e poi anche in Germania e in Lombardia, indubbiamente Federico II aveva presente, oltre che al fatto religioso, per il Regno di Sicilia soprattutto, il fatto politico. Ma non dimentichiamoci che in questo c'è una perfetta coerenza. Io ricordavo che la società tra il secolo, la società politica e religiosa fra il secolo XII e soprattutto la prima metà del XIII crea un potente sforzo di riduzione all'unità. Questo sforzo di riduzione all'unità, non so chi di voi ha familiarità con la filosofia medievale, conoscerà quel libro di Alois Denf, di Metaphysique des Mittelalters. Ebbene, proprio l'altro libro, è vero, dello Steinbüchel, Christliches Mittelalter, tutti e due mostrano che questo sforzo di unità è massimo tra la seconda metà del XII secolo e la seconda metà del XIII secolo. E si articola, soprattutto poi per opera di San Tommaso, in una concezione precisa, la concezione che è politica, religiosa, economica, sociale, riguarda tutti gli aspetti della vita, che è il concetto del bonum comune. Questo concetto del bonum comune, in quanto tende a creare una società organica in cui ognuno ha un compito che si organizza in quello degli altri, considera il ribelle o l'eretico, per usare il termine moderno della sociologia, il deviante di qualsiasi tipo, lo considera come un elemento da eliminare. E poiché l'eretico a un certo momento fa paura, si ricorre a quella eliminazione che è non il mettere fuori dei confini col bando, ma che è l'eliminare dalla società, perché con la pena di morte. Per farvi sentire esattamente il peso di questa dottrina del bonum comune, io mi permetterò di ricordarvi che un discepolo di San Tommaso, in una sua operetta che si intitola appunto De Bono Comuni, arriva a questa teoria, che se un soggetto sa che compiendo una certa azione pro bono comuni si danna, ebbene deve dannarsi pro bono comuni. È il, vorrei dire, il massimo che si possa dire. Ora, in questa concezione della società, che è nello stesso tempo società ecclesiastica da una parte, la ecclesia, e dall'altra parte è la società politica, imperi o regni, ebbene, allora in questa concezione l'eretico è di per sé stesso il peggiore dei mali, come dice la Costituzione del Liber Constitution, appunto delle Costituzioni melfitane, vero? L'eretico è colui il quale introduce la divisione dove c'è l'unità, quindi il peggiore possibile, sia che questa divisione entri nel corpo politico, sia che questa divisione entri nel corpo religioso, codesta ecclesia. Il famoso simbolo della tunica inconsutile, quella con cui comincia proprio la Costituzione, è vero, del Liber, ebbene, proprio quella è caratteristica e tipica di questa mentalità. È la indicazione simbolica che è stata più volte adoperata per indicare l'unità che non si può scindere, che unisce tutti i fedeli. Se mi permettete ancora una parola, badate che per questa unità del corpo religioso da una parte e politico dall'altra, il Medioevo ha elaborato un termine che è stato già studiato dal, se non mi ricordo male, Rupp, ma ancora meglio, e proprio per la prima metà del 200, dal padre Friedrich Kempf, che è professore di storia della Chiesa, diciamo pure è un medievalista con tutte le carte in regola, della Università Gregoriana, ed è il concetto di Christianitas. Cioè, a un certo punto, questo corpo organico, politico da una parte, ecclesiastico dall'altra, ha un suo punto d'unione e di riferimento, la fede comune cristiana, la Christianitas, che da una parte si organizza come corpo dei fedeli e dall'altra si organizza come corpo politico. Noi abbiamo proprio in uno dei testi che ci ha letto il professor Schaller, noi abbiamo trovato, è vero, il sole maggiore, il sole e la luna, le famose immagini, vero, su cui poi discuteranno se le due spade, il sole e la luna, se è maggiore la luna, se è il sole e la luce da chi viene e da chi non viene, e sono, è vero, basta prendere la monarchia di Dante perché questo elemento sia profondamente discusso. Ma comunque sia, che il sole sia più forte o più debole, che le spade siano due, cioè uguali e non diverse, o che altro voi volete, l'importante è questa reductio ad unum, di cui, ed è quello che io dicevo, Federico II ha, a mio avviso, piena consapevolezza, e che egli accetta. Non sappiamo perché. Io ritengo che l'accetti nella coscienza della sua autorità, in una cosciente presa di posizione, e che è in fondo il dramma del 200. Vi dicevo poco fa, tra Federico II da una parte e Bonifazio VIII dall'altra, è vero, questa reductio ad unum politica e religiosa vengono messe alla prova e diciamo pure eliminate, diciamo pure per sempre. E qui il fascino di questo momento storico e diciamo pure la ricchezza della problematica. Non dimenticate che c'è tutta una polemica politica, una polemica religiosa, tutta una serie di discussioni. So, se voi prendete per gli inizi del 300 Jean Kidore, Johannes Parisiensis, è vero, Giovanni di Parigi, De potestate regia et papali. Ebbene, il De potestate regia et papali proprio tocca questi problemi, come cioè questa reductio ad unum renda possibile le articolazioni politiche che sono, se voi volete, l'impero e gli stati nazionali. Non so se ho risposto pienamente, io mi scuso, le mie risposte sono sempre un po' rapide, ma tocchiamo problemi molto impegnativi. Questo che abbiamo toccato ora di questa reductio ad unum è estremamente significativo. È questa però la ragione profonda per cui l'eretico e il ribelle in fondo sono sullo stesso piano. Rompono l'unità, che è l'organicità della realtà pubblica, della realtà dello Stato, diremmo noi con termini un po' moderni, e della realtà della Chiesa. Sì, l'hai dimostrato molto bene, ma mi pare che l'eresia non è tanto un fatto religioso, ma piuttosto un fatto sociologico, perché c'è l'insubordinazione alle autorità, perché la prassi religiosa dimostra bene che erano linee diverse, insomma, nella venerazione dei santi oppure nella concezione di, non so, dei sacramenti, eccetera. Quello che diceva l'autorità era importante, e colui che non obbediva a queste autorità era, sì, ribelle e eretico. Ecco, veda, io non volevo scendere sul terreno delle dottrine, perché purtroppo io ho una specie di, come dire, di cartello sul mio petto che mi classifica eresiologo per tutta la mia vita. Ogni tanto ne ho fin sopra i capelli, ma tant'è, bisogna parlarne. Veda, mentre sono perfettamente d'accordo con lei nel sottolineare il significato, come lei ha detto, sociologico del fatto ereticale, e ho parlato appunto di devianti nel termine più generale della sociologia che noi abbiamo, sia per l'eretico che per il ribelle, devo però dirle che in questo momento, nella prima metà del 200, l'eresia non è soltanto riducibile al fenomeno della devianza, cioè a un fenomeno di turbamento dell'unità, ma soprattutto ad opera dei catari, è la creazione di una vera e propria antichiesa. Su questo punto ormai direi che è stata raggiunta una chiarezza completa. Il catarismo non è, come il valdismo o altre eresie, un fenomeno che riguardi questo o quel punto della dottrina della Chiesa. Non posso certo infliggervi, Dio me lo perdoni, non posso certo infliggervi una lezione di, chiamiamola, teologia catara, ma indubbiamente il catarismo ha un corpo di dottrine perfettamente organico e crea una gerarchia perfettamente organica. Se lei prende, in tedesco per lei non c'è problema, se lei prende il libro di Arno Borst di Catar, che è un libro per certi aspetti un po' debole storicamente, ma comodissimo sul piano della consultazione, se lei prende una delle ricche e preziose appendici, lei troverà la indicazione di una vera e propria gerarchia catara che è andata avanti per un secolo e mezzo, con successori, con gente che si succede, con eresie nell'eresia. Cioè noi abbiamo una vera e propria antichiesa, ma un uomo come Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, ma mica si sarebbero preoccupati di 20 persone che davano noia. La realtà è che in Francia meridionale, in Italia, noi abbiamo città che in dei momenti sono governate da eretici, dove la Chiesa non parla più, sta lì buona e nessuno la tocca. Un vescovo di Milano, Galdino, dalla sua biografia risulta che per vari anni ha combattuto inutilmente gli eretici, perché gli eretici sono strapotenti. E ripeto, non sono soltanto un fatto rilevante sociologicamente, cioè una divisione di una società, ma sono una società che si pone come antitesi dell'altra società. Se dovessimo adoperare la terminologia del Troisch, non formano una setta, ma una antichiesa. Non sono un gruppuscolo, ma sono un corpo organico, legato fra loro. Noi abbiamo notizie, io non vi voglio annoiare, ma esistono dei viaggi. Noi abbiamo per esempio dei nunzi ereticorum, che poi dopo sono stati presi dall'Inquisizione, e ci raccontano i loro viaggi. Uno dei più belli, perché riguarda proprio l'Italia, è quello di un certo Jacques Fournier, che mi pare nel 1236 parte dalla Francia meridionale e fa il giro praticamente di tutte le città italiane dove ci sono eretici della Francia meridionale. C'è praticamente tutta l'Italia. Adesso, se mi ricordo bene, passa da Cuneo. Da Cuneo va a Alessandria, da Alessandria a Pavia, da Pavia a Milano, da Milano a Verona, da Verona a Vicenza, da Vicenza scende e va a Piacenza, poi a Piacenza mi pare che scenda a Bologna, da Bologna ritorna ad Alessandria. E trova, e dovunque trova degli eretici della Francia meridionale che stanno tranquilli, perché in Italia sono tranquilli, mentre in Francia meridionale c'è il rischio di finire, è vero, nelle mani dei sovrani, dei principi locali, che quando sono francesi sono strettamente legati all'eresia e non fanno tanti complimenti ad ammazzarli. Non so se la mia risposta è perfettamente pertinente, ma vorrei distinguere, altrimenti noi non ci spiegheremmo perché Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, Innocenzo IV, è vero, Clemente IV, si preoccupano di questi eretici. Se non erano importanti, ma con i problemi politici enormi che c'erano sul tappeto, ma chi si importava più dell'eresia? Una delle prime cose, guardi, una delle prime cose che Carlo d'Angiò fa per assicurarsi il potere, e per questo noi abbiamo poche, ma abbiamo delle notizie relative agli eretici nelle città italiane, è proprio quello di fare dei processi. Il pericolo della società medievale era la deviazione, perché gruppi che avevano dottrine diverse c'erano, gli ebrei per esempio, ma gli ebrei Un momento, l'ebreo viene considerato parte di questa società, una parte in una posizione singolare, ma parte di questa società. Si è inserito apertamente in questa società, il pericolo veniva appunto da quello che... Certo, perché quelli si ergono, si elevano in antichiesa. Ma anche per gli ebrei, per scusa, dal 1098 in poi cominciano... Però la società medievale, li accetta come, diciamo così, presenza all'interno della società cristiana. A meno che non si vede in loro invece la possibilità di rottura del sistema. Lì c'è un grosso punto, perché tu hai citato una data drammatica, ed è il momento in cui la, diciamo così, postulazione antisemitica che si era creata nella dottrina ecclesiastica, da, diciamo, Agobardo di Lione in poi, uno dei responsabili dell'antisemitismo è una grande personalità, ma tant'è, ed è Agobardo di Lione, che cosa succede? Che scende sempre più a livello popolare, anche perché proprio per le disposizioni che classificano e organizzano l'ebreo nella società, l'ebreo lentamente diventa, come poi è rimasto per secoli, medico o prestatore di denaro. Ora, oggi i medici sono privilegiati, ma nel Medioevo il medico era esposto al rischio che se l'ammalato moriva era il colpevole. E l'ebreo si acquisisce, al di là dell'antisemitismo di tipo e di origine un po' ecclesiastica, l'antipatia della popolazione. Sì, scusami, io sono tornato, quindi volevo attaccarmi a questo per fare certi collegamenti che forse non hanno ragione d'essere. No, anzi. Sottopongo la tua attenzione. Cioè, parallelamente appunto all'espansione dell'idea di crociata, noi abbiamo da un certo punto di vista così l'aprirsi di grosse ondate repressive, sia pur salvare nei confronti delle minoranze ebraiche, per questo 1998, certo. Ovviamente. Ecco, e quindi abbiamo all'interno della cristianità e poi l'avvio appunto di quella che poi sarà chiamata la crociata d'Indra, insomma, e anche questo è abbastanza significativo di questo tipo di evoluzione. Cioè, la cristianità, a mio avviso, come hai detto tu, unita nella sua, come congregatio fidelium, si rigidisce nelle sue strutture man mano si avverte o in qualche modo cresce il problema all'esterno. Cioè, questa è una logica continua, cioè aumentando il pericolo alle frontiere, avendo i problemi alle frontiere, ovviamente il corpo sociale, in questo caso la cristianità, tende a invertirsi e quindi a rendere più difficile la vita delle minoranze, qualunque essa fosse. E questo si connette a quello che diceva adesso il dottor Amaro, cioè che proprio in questo momento, diciamo così, piano piano, proprio questa reductio ad unum tende, qui siamo perfettamente d'accordo, tende sul piano sociologico a colpire qualsiasi forma di minoranza, l'eretico perché è più pericoloso, ma anche l'ebreo. Questa è una prima cosa che volevo dire, sono contento che trovi conferma. L'altra cosa è questa, cioè che in questa situazione Federico, a mio avviso, e qui si connette con il problema specifico della pena di morte, cosa fa? Ecco, ritorna specificatamente a statuizioni tipiche del tardo impero. Certo. E quindi riprende sostanzialmente la figura di Episcopus ad extra. Cioè, in certi momenti sì. Cioè, in sostanza, dico io queste cose. No, ma questo è giusto. Talmente superficiale che mi vergogno. Ecco. Ma in sostanza mi pare questo. Che la persecuzione ereticale abbia, perché vi dico, un'importanza non solo nei riguardi degli eretici, ma nei riguardi del Papa, come ridimensionamento della figura papale. In sostanza, il discorso di Federico è questo, il custode della cristianità, l'episcopus nel senso etimologico, e quindi il garante della pace e della tranquillità non solo nello Stato che non è concepibile a sé, ma nella congregata Fidelium, è Federico. Questo è il discorso che mi sembra lui, attraverso la persecuzione degli eretici, fa a papà. Ma no, guarda, io ti dirò subito che chi fa... No, ma questo è un problema che è molto interessante. Chi lo fa, questo discorso lo fa in maniera esplicita, è Federico Barbarossa. Federico Barbarossa, nel momento in cui riunisce il famoso assunzione della legislazione anti-ereticale del Concilio di Verona, della Riunione di Verona, e poi la stessa crociata di Federico Barbarossa, entrano perfettamente in questo quadro, come dire, dottrinale e diciamo pure umano e psicologico. Nella storiografia tedesca si parla sempre con una certa emozione della famosa Dieta Christi, quando Federico Barbarossa convoca la Dieta imperiale, ma al trono, sul trono non c'è nessuno, perché la Dieta è presieduta da Gesù Cristo. E allora sì, veramente, tu hai anche nella simbolistica, se non mi sbaglio, vero, medievale, tu hai anche proprio la precisa indicazione: il capo di questa crociata è Cristo, io sono la mano armata non tanto del Papa quanto di Cristo stesso. Cristo è il nostro condottiero, è il nostro capo. Per Federico II io sarei più prudente, perché Federico II è, per certi aspetti, adesso la parola è pericolosa e non vorrei essere frainteso, è più moderno, nel senso che si è evoluto rispetto a Federico Barbarossa. Federico Barbarossa è, psicologicamente parlando, veramente un uomo del XII secolo, ecco, in pieno, e vive degli umori dell'epoca. Con Federico II emerge piuttosto, e in questo forse potrà dirci qualche cosa, se lo crede anche il collega Schaller, emerge soprattutto la figura dell'avvocatus ecclesiae, del difensore della Chiesa, più che quello dell'episcopus externus. E la prova, io la vedrei in questo fatto, proprio mi pare proprio prova concreta. Federico II non ha mai pensato ad un antipapa. Mai. Nei momenti i peggiori, nei momenti in cui proprio noi ci verrebbe detto di dirgli ma insomma te lo fai un bel antipapa. Niente. E lo c'è questo strano atteggiamento, proprio oso dire strano atteggiamento, di in fondo cercare sempre di arrivare ad un accordo, di concludere, persino quando va al Concilio di Lione, è vero, Taddeo da Festa finisce per adoperare delle, come diremmo noi oggi, delle astuzie procedurali, non è stato convocato in maniera conveniente, bisogna aspettare, non si può condannare uno assente, dice ma c'è il rappresentante, sì, ma io non ho il potere di rappresentarlo. Cioè, Federico II mi sembra psicologicamente diverso. La sua posizione verso la Chiesa è, non mi sembra, ecco, non tanto quella dell'episcopus externus quanto quello del fiancheggiatore, dell'altro elemento della vita della società cristiana. Non è invece il contrario, scusate, no, ma è un problema interessante. Sì, è proprio la così, la realizzazione, insomma, la così più quasi più grandina della sua posizione, insomma, ecco, del punto imperiale. Che non gli pone il problema del Papa, ma gli pone il problema di costruirsi lui il suo potere anche appunto all'interno della Chiesa. Vedi che certo ci siano anche elementi bizantini, se vogliamo, nel mondo di Federico II. Beh, c'è la famosa lettera, quella famosa uscita a Giovanni Vatazze, la lettera di Giovanni Vatazze, beati, è vero, i sovrani dell'Oriente che non hanno preti tra i piedi, ma io, ecco, io rimarrei un pochino nella posizione del vedere Federico II come, se vogliamo, un personaggio che cerca, se possiamo adoperare ancora un'espressione un po' anacronistica, cerca il concordato, l'intesa, perché in ultima analisi io oserei dire questo, dell'essere episcopus externus o di avere un antipapa, non ha che fare. Ecco, lui prospetta piuttosto il rinnovamento, almeno in alcune grandi lettere, prospetta il rinnovamento della Chiesa, vuole che i fedeli si pronuncino sul comportamento, i fedeli, i principi, si pronuncino sul comportamento del Papa, ma non vuole un antipapa, almeno questa è sempre la mia impressione, e che in ultima analisi mi fa essere perplesso nel dire che egli voglia assumere questa posizione di episcopus externus. Che vedrei invece in Federico Barbarossa? La cosa che lui fa sempre continuamente che voglio no, però quella di essere nemico della pace. Certo. Ed è questo a me pare abbastanza interessante, per data la sua interità, cioè lui è il grande della pace, ed il Papa è il nemico della pace come tale, in qualche modo si mette al di fuori del mondo, certo. Uno che è lui, tranquillità, pace, giustizia, e certamente questo sì. Da questo punto di vista, ecco, a me pare importante tutto appunto quello che hai detto sulla organizzazione, anche sulla mentalità, il fatto dell'eresia, cioè sulla sua importanza sociale, sociologica. Mi domando se può essere agganciato proprio a una contrapposizione rinascente tra una forma primitiva e ecclesia, ecco, che sottostà a tutto questo, invece la riaffermazione della Chiesa imperiale, ecco, cioè che nella sua età, insomma, si riaffermi, diciamo, quella che è la dicotomia fondamentale della storia cristiana, a un certo punto, insomma, che trova da una parte la ribellione alle istituzioni e dall'altra parte appunto nel Federico. Vedi, qui poni forse il problema, vorrei dire, più scottante di questo momento storico. Guarda, sinceramente è uno dei punti, come dire, cruciali. Io credo di poterti rispondere in questo senso. L'età federiciana è indubbiamente caratterizzata ancora dalla presenza del fermento che possiamo chiamare genericamente quello della forma della Chiesa primitiva, che però già col francescanesimo è diventato la forma Sancti Evangelii e quindi elimina tutta una serie di elementi della ecclesia primitiva e forma. E c'è indubbiamente, ma io vorrei sottolineare che però, per quello che a me sembra di poter dire, questo filone, questa presenza che è grande, che ha una importanza eccezionale, il successo del francescanesimo non è casuale, ha una sua radice storica profonda di natura, come dicevo allora, sociale e sociologica, però rimane, a mio avviso, legata a una certa determinata parte della società. Se noi abbiamo, come del resto in tutti i grandi movimenti, un certo numero di persone che di una classe scendono alla scelta di un'altra classe inferiore, però, diciamoci pure con franchezza, la Chiesa in quanto organizzazione ha rifiutato l'appello di Francesco, del francescanesimo e del pauperismo e della forma della Chiesa primitiva. In questo, quando Federico II dice ai papi, voi della Chiesa primitiva e degli apostoli non ve ne importa più niente, a mio avviso coglie perfettamente nel senso. Si è detto senza mancare il riguardo, ma a nessuno, ma mi pare che sia perfettamente detto. Questo per quello che riguarda un tipo di forza spirituale, il pauperismo evangelico, che è ortodosso e no, è francescano e valdese, è francescano e di altri movimenti apostolici che poi a un certo momento si confondono con movimenti anche di tipo sociale e buono. Ma l'eresia di cui in realtà si preoccupano il Papa e di rimbalzo, perché io torno a dire, malgrado tutto, anche di rimbalzo, Federico II è soprattutto l'eresia catara, perché l'eresia catara ha raggiunto una parte della società che non è più quella del contadino o quella del lavorante a giornata, che poi in fondo nella realtà politica della città, si leggeva giorni fa il brano, ieri l'altro mi pare, il brano di Fassalimbene, vero che i parmenti si scannano tra di loro, ma sono gli etni, i milites, il resto della popolazione dice, beh, vedetevela voi, poi ci fate sapere che cosa avete deciso. In realtà, l'eresia catara invece ha raggiunto quel tale grado e rango sociale dove ci sono questi signori che hanno almeno in parte i poteri, ma non dimentichiamoci, amici miei, che Farinata degli Uberti, capo del partito ghibellino in Firenze, era catara. Ci piaccia o no? Va bene? E Dante, che la sapeva lunga più di noi perché era contemporaneo, non a caso lo mette all'inferno. È chiaro? Poi lo camuffa da epicureo. Ma lo camuffa da epicureo perché i fiorentini non hanno mai ammesso nelle loro cronache che erano pieni di catari, perché se ne vergognavano, come uno non denuncia le colpe di famiglia. Ma se voi prendete le cronache fiorentine, non c'è un eretico, c'è solo tre righe, ci sono credo 10 righe di Giovanni Villani che nel 1210 dice che sì, c'era qualche eretico e si ebbe qualche disordine in città. Poi dal 1210 in poi sembra che gli eretici siano scomparsi. E noi abbiamo invece una cronaca familiare, segreta diremmo noi oggi, di quella di bellissima di Donato Velluti, dove il Donato Velluti ci racconta di un suo avo che quando lui era piccolissimo era molto vecchio e mostrava ai nipoti le ferite che aveva preso combattendo con i bellini e con i sardi. Quindi, in un certo senso, se c'è, come c'è, questa componente del Vangelo, della Chiesa primitiva, eccetera, però quella che preoccupa la Chiesa, quello per cui Innocenzo III discute e parla nel Concilio Lateranense IV, quello per cui interviene Onorio III e in un certo senso, come abbiamo detto, si impone a Federico II, eccetera, a mio avviso sono soprattutto i Catari, gli unici per numero e per posizione sociale e politica capaci di far paura. Quindi il problema della Chiesa primitiva entra e tocca i Catari, in quanto in parte i Catari anch'essi si richiamavano a degli aspetti della vita della Chiesa primitiva, ma poi in realtà molto meno di quello che non sembri e che essi stessi poi volessero farci credere. Non so se sono stato esauriente, ecco. Ancora sulla reazione, una parola, è stato molto interessante. Guardate, perché io non vorrei, perché qui c'è qualcuno che deve partire, sentite, se qualcuno di voi deve partire non faccia complimenti, ecco, scusatemi, so che qualcuno di voi mi aveva detto ieri che doveva partire, quindi chi deve andare, anche lei, se deve andare, guardi, non faccia complimenti, ecco. Abbiamo lavorato finora da buoni amici, non vorrei poi che qualcuno dovesse o perdere un treno o magari correre troppo per tornare a casa. Ecco. Detto questo. Chiedo 10 minuti di discussione sul seminario stesso. Cioè, sì, ma quello ho già pensato. È solo per fare una domanda. In realtà era una sessione universale per tempo, tanto del luogo di chiesa come di cultura, mi pare. È stato per me molto interessante vedere Federico II preso da questa ossessione a questo punto, e soprattutto nel caso della legislazione antieretica, che però mi pare aver capito, insomma, è più promossa dalla Chiesa che non da lui, insomma, lui è rimorchiato, benché se mi resta da lui. Però doveva essere chiaro a lui che questa Repubblica d'Urlum doveva finire in un vertice solo. E di fatto il punto, cioè con Bonifacio VIII non ci sarà più nessun dubbio, no? con Egidio Romano, eccetera. Ma lo ha subito nella propria pelle anche questo out, insomma, no? Nel 1245. E lì ci dovrebbe essere, vi chiedo, se in quella polemica che c'è stata, in quei dibattiti, però. Insomma, si è mantenuta, è stata prevalente l'idea o si è andata in crisi, come lui l'ha salvata, perché mi pare che corre come slogan abbastanza frequente nel manuale, appunto quest'idea che Federico II ha tentato sì di porre poi l'idea del vertice della Reductio ad Unum su una base pagana, profana, che invece il mondo storico di allora assolutamente non recepiva, ovviamente un certo ricorso all'idea della maiestas di tipo dell'imperatore romano, qui è Dominum Maiestatis, e che comunque fa il giusto o l'ingiusto senza norme superiori, che un certo tentativo ideologico di insomma basare questa, e naturalmente questo infrangeva ancora di più l'unità medievale. Ma chiedo se in quelle voci, io in quella propaganda, qualche cosa si è espresso che può accreditare questo tentativo, che in questo caso metterebbe Federico II, certo, molto al di fuori dell'aspirazione della rivoluzione. Sì, veramente sui manifesti è molto più esperto il professor Schaller di me, ma io le dico subito, guardi. Sui manuali corrono su Federico II parecchie cose così, che corrono in luoghi comuni che noi qualche volta anche ripetiamo, anche per pigrizia. In realtà la situazione è più complessa. Prima di tutto io direi questo. Nei manifesti, ancora una volta, Federico II non vuole un altro Papa, ne vuole un'altra Chiesa. E, se io adesso ricordo bene, quello che gli vuole è una Chiesa, diciamo così, spirituale, un clericato che sia religioso e non religioso, e tutta una organizzazione della Chiesa in funzione spirituale. Quando arriva al massimo di tutto questo, chiede appunto una Chiesa, come abbiamo letto in Fra Salimbene, è vero, che i chierici diventassero papi e diventassero poveri e camminassero a piedi, per dirla in parole povere. Ora, a me sembra che tutto questo non comporti di necessità il problema della maiestas, eccetera. Lui parla di maiestas, parla di pax, parla di giustizia, parla di lex animata in terris, eccetera, ma limitandosi alla realtà politica. E, se Sallo sbaglio mi corregga, quando interviene nei suoi manifesti, chiede soprattutto questo rispetto della vita del giovane. Che personalmente ci credesse o non, io non l'ho detto da principio, non credo che io lo possa sapere, a meno di non evocare con il tavolino l'anima di Federico II, e Dio sa poi chi ci risponderebbe. Ma per me il problema è viceversa un altro, è il problema di questo ideale. Ora, stiamo attenti che anche in questo ideale è affiorato due o tre volte nel corso delle nostre discussioni. In questo ideale può anche esserci un ricordo di suo padre. Non dimentichiamo il famoso Estes Angebot, come ha detto uno storico, era questa offerta che non è poi ben chiara di Enrico VI alla Chiesa. Una offerta in fondo per cui se la Chiesa si fosse ridotta alle sue funzioni spirituali, lui avrebbe creato tutta una serie di aiuti, vantaggi e via discorrendo, ma non oso dire di più perché la questione è continuamente, e credo ora non se ne discute più, c'è stato un momento in cui se ne è discusso a catena, poi come succede, i problemi si fermano e poi chissà chi lo riprenderà. Quindi c'è anche un po', in parte almeno, una tradizione familiare, la quale, per quello che riguarda il padre, un po' ancora vedrei di questo episcopus externus di cui si parlava poco fa. Ma per carità, non parliamo di Enrico VI, perché sennò non la finiamo più. Ecco. Probabilmente però, una posizione chiave da finale sarebbe il richiamo vetero-testamentare, cioè in questo senso anche nella persecuzione verticale, cioè il richiamo si fa sempre maggiormente di padre, Non so se era questa la cosa che io devo rispondere. No, io concordo ampiamente sul fatto che l'idea dell'episcopus esterorum, o la pretesa dell'imperatore a governare la vita esterna della Chiesa, è piuttosto in declino rispetto al secolo precedente. Questo lo ritengo abbastanza evidente. Ma proprio per questo mi riesce più difficile vederlo investito sul segno dell'idea della reduzione a turno, cioè vedrei quest'idea che indubbiamente c'è, ma fortemente contemperata invece della tragica o della drammatica, che sono un complesso di il mondo delle realtà terrene, insomma, no? Come qualche cosa di distinto, volere o no, insomma, non si lascia ridurre ad una unità di quel tipo. Ma qui entriamo in un problema che è stato toccato ieri alla fine della sua relazione al professor Mazzarese Fardella. Io sono stato forse un po' troppo, come dire, rapido nel parlare di reductio ad unum e non vorrei aver creato dei fraintendimenti, perché la reductio ad unum di cui si parla è di vari tipi. Giustamente ieri mattina si notava che questa reductio ad unum si ricollega piuttosto al mondo platonico e neoplatonico, anzi il professor Mazzarese Fardella giustamente puntualizzava un neoplatonismo e un neoplatonismo anche di tipo arabo, è venuto fuori il nome di Al-Farabi. Ora, in questo senso, questa reductio ad unum, non di tipo aristotelico-tomistico, ma di tipo neoplatonico, non esige questa riduzione un po' drastica ed energica di cui si accennava. È piuttosto una tendenza verso l'unità, il ritorno verso l'uno. Ecco. A me non mi pare che si possa dire così. Sì. Dunque, tornando al discorso più direttamente sulle religie, lei ha accettato, professore, il carattere di antichiesa del catarismo, dicendo che c'è una costruzione completa, no? Che si occupa di Roma. Ora, noi abbiamo delle fonti, vediamo che nelle fonti degli inquisitori vengono proprio accomunati tra i valdesi e varie correnti. Sì. Però noi sappiamo che l'eresia valdese non è nata su, così, su una costruzione, una grandiosa costruzione teologica, ma è nata dall'esigenza di Baldo e dall'esigenza che era assolutamente all'interno della teologia cattolica, totalmente. Baldo viene messo fuori dalla Chiesa cattolica non perché sostenga una teologia particolare, ma unicamente perché pretende, indipendentemente dall'istituzione, di farsi portatrice della teologia cattolica all'interno del popolo. E noi vediamo anche degli inquisitori che loro per esempio si avvertono moltissimo, che appunto gente senza mandato episcopale, che persino delle donne, così vada a casa la gente, si vada a toccare il popolo e dedichino una teologia che loro, così che è appunto chiaramente. Ora, d'altra parte, noi sappiamo che i medesimi inquisitori hanno preso degli enormi avvalli sulla teologia dei Catari, sul pensiero dei Catari, si leggono posizioni contraddittorie. No, no, signorina, scusi, qui proprio è un problema di informazione. Scusi se io sono un po' drastico. Gli inquisitori in carica e i polemisti in carica erano, per quello che riguardava i Catari e le loro dottrine, perfettamente informati sulle interpretazioni di fondo, tiravano fuori i manichei, eccetera, ma si è detto tra parentesi, tiravano fuori i manichei proprio perché i manichei permettevano di affibbiare a loro la legislazione tardo-antica contro il manicheismo, dimenticando che la legislazione tardo-antica contro il manicheismo era fatta perché i manichei erano persiani e quindi volevano colpire un nemico politico. I nostri bravi, se lei prende Moneta, vero, uno dei grossi personaggi, conosce addirittura il commento, l'esegesi catara della Bibbia, parola per parola, potremmo rifare la Bibbia catara, ecco. Comunque nomine censi alti, non si sbaglia così, non c'è pericolo. Allora, se appunto noi vediamo che da una parte i padri hanno chiaramente una teologia loro, però vengono messi assieme con i valdesi, quando la teologia loro non ce l'hanno, ce l'avranno molto più tardi a fatica, lavoreranno proprio stretto. Ci vuole il 400. Sì, un po' più. Per sapere. Comunque il 400 poi chi è la più data contatto con il centro. Allora, il mio problema è questo. Cioè, a me pare che più che un discorso, cioè più che la Chiesa Cattolica, più che attaccare i catari e i valdesi per le loro teologie, che appunto nel caso del valdese non sussiste, li attaccano invece semplicemente perché questi gruppi attaccano la Chiesa in quanto entità, in quanto unità, quindi io sono d'accordo con quello che lei diceva del etico pari al uguale al ribelle. Ma non perché questo eretico fosse sempre portatore di esigenze diverse, tanto è vero che poi, per esempio, nei primissimi tempi i valdesi erano benissimo d'accordo con il Papa, non avevano problemi, quando nei primissimi tempi. Non perché appunto fosse portatore di esigenze diverse, ma perché contestava questa struttura unitaria, appunto questo edificio unitario. Tant'è vero che gli ordini mendicanti, domenicani e francescani, che saranno portatori delle stesse esigenze dei valdesi, esigenze della predicazione, esigenze della povertà, ma che però le inseriranno questa esigenza all'interno della Chiesa Cattolica, per cui il maestro dei domenicani e dei francescani è responsabile davanti al Papa, loro invece saranno tranquillamente, anche saranno inquisitori. Quindi cioè, è una risposta diversa a una stessa. Cioè è la stessa risposta alla stessa esigenza, solo che gli uni la collocano all'interno della Chiesa e gli altri invece rifiutano questa struttura unitaria. Signorina, io devo un po' qui ritornare su quello che dicevo poco fa a proposito, parlando col collega Malzec, cioè noi dobbiamo stare attenti a non fare delle eresie medievali una sola zuppa, perché altrimenti confondiamo sia le conseguenze storiche sia gli atteggiamenti dell'autorità ecclesiastica. Diciamo pure, se vogliamo adoperare un'espressione, se mi permettete, un po' familiare. Signorina, la Chiesa se la prendeva con i valdesi quando proprio se li trovava sotto al naso e quelli gli dicevano io sono valdese, o quando in qualche luogo, come è capitato per esempio in Germania, quando in qualche luogo cominciavano ad essere tanto numerosi da dar noia. Cioè, in altre parole, il valdese è un po' l'atteggiamento, se mi permettete, della famosa lettera, è vero, a Pio il Giovane, cioè li prendete, li perseguitate, eccetera, se danno noia, se non danno noia. Signorina, nella Francia meridionale noi abbiamo nel Liber Sententiarum di Bernard Guy la indicazione che c'è stata una comunità valdese che per 30 anni, dico non per un giorno o due, per 30 anni è stata tranquillamente valdese. E viene fuori, se adesso la memoria non mi tradisce, per un affare di gelosia. Uno denuncia i suoi confratelli, se no sarebbe durata anche 40 anni o 50. Cioè la Chiesa della Valdesia, come si diceva, non si preoccupa. Guardate che nel XII e XIII secolo, quando si parla di eresis senza aggettivi, si intende l'eresia cara. Di perché signorina non è lì, a un certo punto sono tutti i nomi messi insieme, si parla anche di quelli che non esistono più, perché al tempo, immaginate che nel 1231 c'erano ancora gli arnaldisti, ma non ce n'erano già credo nel 1260, nel 1180 o qualcosa del genere, non so se mi sono spiegato. Scusi, allora dico, è l'atteggiamento appunto di quello che dice lui, l'atteggiamento dell'istituzione Chiesa che dice no No signorina, è la istituzione che ha un certo punto. No signorina, è un problema. Signorina, guardi, a un certo momento noi abbiamo un atteggiamento di rifiuto. Un rifiuto che è il rifiuto di tutto quello che in qualche modo tocchi questa unità. Che questa sia unità dottrinale e organizzativa, come la Chiesa cata. Che sia rifiuto di obbedienza, neanche rifiuto di obbedienza poi in fondo, ma affermazione di certi diritti del fedele, come è il caso del valdese. Che sia il dover ricorrere alla circoncisione e al sabato, come è il caso dei circoncisi. Che sia quel che poi non si sa bene che cosa sia, come è il caso degli arnaldisti. Alla Chiesa non importa. Alla Chiesa importa che dove ci siano delle divergenze, in questo vero vale l'osservazione fatta precedentemente a proposito dell'eresia come fenomeno di devianza, tutto quello che si allontana da questa unità, abbia o non abbia corpo teologico, tant'è vero che a un certo momento finiscono nelle mani degli inquisitori, finiscono addirittura le streghe, gli omosessuali e altre cose del genere. Perché? Perché escono da una certa, da un certo ordine costituito. Quindi direi che dobbiamo stare attenti tra quelli che sono le forze storiche che spingono l'autorità ad intervenire e quelle che sono le forze e le realtà contro cui l'autorità interviene. Mi spiego. La Chiesa ha paura non dei valdesi, che anzi in molta parte riesce a convertire, ha paura dei catari, perché quelli non si convertivano e formavano un'altra chiesa con una gerarchia precisa e da un certo momento in poi, cioè proprio dall'inizio del 200, i papi lo fanno, se ne accorgono, finalmente se ne accorgono, perché per 20-30 anni non hanno capito niente. Una delle cose, per carità non voglio affliggerli, ma una delle cose più interessanti, in qualche momento vorrei dire addirittura divertenti, è che per 20-30 anni la Chiesa non ha capito chi diavolo fossero questi eretici. Li chiama ariani, li chiama pelagiani, li chiama manichei, e poi è rimasto questo termine di manichei. E poi a un bel momento, poiché non capisce più bene, dice, beh, li mettiamo tutti, che siano leonisti, valdesi, come si dice, catari, albigesi, può comunque, e fa più presto, può comunque nomine censeato. Cioè chiunque la Chiesa colpisce o chiunque la Chiesa considera fuori del suo corpo, diciamo così, unità. Nur in einem Punkt möchte ich Sie unterstützen, und zwar was die Katharer angeht. Die Ecclesia Primitiva spielt bei den Katharern überhaupt keine Rolle. Das ist sehr merkwürdig. Es muss einen Unterschied machen. Wir können darüber. Ja, die wird erwähnt, aber es ist nicht konstitutiv für das Modell, für das Kirchenmodell der Antikirche der Katharer. Sì, lei, il dottor Dice, diceva che in ultima analisi per i catari la Chiesa primitiva non è un problema. Devo aggiungere che v'è un elemento che è molto interessante. I primi catari si presentano come successori della Chiesa primitiva. Noi abbiamo la lettera di Everino di Steinfeld a San Bernardo, in cui dicono che essi sono i veri successori degli apostoli, la cui dottrina, stia attento, nascosta a lungo in Grecia, a un certo momento è venuta fuori. Ma si presentano come i successori degli apostoli. Noi siamo i perseguitati, noi siamo i poveri, noi siamo... Perché? Perché accolgono l'atmosfera della storia e della vita religiosa, culturale e culturale dell'epoca. Ma io credo che possiamo avviarci, spero di non strozzare la discussione, ma io credo che noi dobbiamo avviarci verso la nostra conclusione. Una conclusione rapidissima, che io credo si possa riassumere precisamente nella constatazione che noi abbiamo, con l'aiuto dei colleghi che di volta in volta hanno preso qui la parola, che noi abbiamo avuto della ricchezza di una personalità, della ampiezza e della molteplicità dei problemi che questa personalità comporta e insieme della importanza di questa personalità. Noi abbiamo in sostanza toccato molte volte, io non amo parlare di metodologia, ma vorrei dire che in questo momento è quasi necessario, lo è, noi abbiamo in sostanza toccato più volte un problema metodologico di importanza straordinaria, il rapporto dell'individuo come capace di operare o non nella storia. Quali sono cioè i limiti e le possibilità per cui un uomo può intervenire nella storia? E noi abbiamo avuto il caso, che non è frequente, di un uomo che veramente questa forza ha avuto per molte circostanze e in molti casi. E vorrei dire che, se non mi inganna, ma io ho ascoltato tutto attentamente, spero almeno, se non mi inganna, uno degli aspetti più affascinanti è stato quello di vedere come la esigenza di un sovrano si traduceva nella realtà dell'azione di governo. Quando noi abbiamo visto come la cancelleria, ad esempio, di Federico II elaborava il suo dettato nelle esigenze, certo, della vita politica, ma tenendo presente quello che dovevano fare, cioè presentare il sovrano nella sua maestà e grandezza. Quando noi abbiamo, in altre relazioni, avvertito quello che il collega Turner ha chiamato la presenza soggettiva di Federico II nella poesia italiana, o la presenza oggettiva di Federico II nella poesia tedesca, ancora una volta questo rapporto sovrano e realtà circostante è entrata in gioco. E poi l'abbiamo visto nel problema delle città italiane. Come un uomo, un borghese, quale fra Salimbene, a un certo punto ha reagito a questa personalità di cui avvertiva tutto il fatto. Se egli fosse stato buon cattolico, non vi era uomo pari a lui nel mondo. Vidi eum et per alicor tempus dilexi. Lo vidi e per un bel po' di tempo io molto meno. Questo borghese spregiudicato che vi rappresenta San Luigi buttato per terra, senza nessun fondo, è buttato per terra nella chiesa dei minori a pregare, ma non se ne commuove molto. Esalta questa pietà, ma in fondo non se ne preoccupa. Eppure avverte la reazione di quest'uomo ed allora voi vedete che attraverso fra Salimbene sentite il limite, un limite che è persino ironico. Quando dice uno dei suoi guai è che si è ribellata a Parma, e Parma è la sua città. O l'altra, quando dice che uno dei suoi guai, è vero, uno degli incomodi che ha avuto, è che voleva ridurre la Chiesa allo stadio primitivo, ma non lo faceva perché era buon cattolico, lo faceva perché voleva impadronirsi dei beni della Chiesa. Ebbene, in tutto questo, nella realtà che abbiamo visto, dobbiamo dire, più da vicino, che sta da quella della realtà amministrativa e dei rapporti fra Chiesa e potere sovrano in Sicilia, in Sicilia e nel Regno di Sicilia, beh, noi abbiamo sempre, vorrei dire, quasi obbligatoriamente toccato questo problema: uomo e sue possibilità di intervenire nella storia. Vorrei dire che se non volessimo chiamare il nostro seminario col nome di Federico II, potremmo, trasformandolo sul piano metodologico, trasportandolo sul piano metodologico, chiamarlo il seminario dei problemi, dei limiti che la realtà della storia impone all'azione dell'uomo. Direi che da tutto questo è emersa, e spero che siamo riusciti, perché anche come dire oratore, parlatore, qui in questa sede, anch'io non so se sono riuscito a dire tutto quello che volevo, ma io spero che noi tutti che ci siamo succeduti qui a parlare siamo riusciti reciprocamente a darci il senso e il significato di questa, non vorrei chiamarla antitesi, ma di questa relazione tra l'uomo e il mondo che lo circonda, fra l'azione dell'uomo e l'azione del mondo che gli è intorno. Ed è a un certo momento il mezzo di cui egli si serve e il limite che gli si oppone. Qui ritengo di poter ripetere quello che dicevo concludendo la mia relazione di questa mattina, cioè qui abbiamo la drammaticità di un uomo che avverte delle esigenze che gli pone la sua razionalità, avverte delle esigenze che nascono dalla sua realtà culturale, umana e tradizionale di sovrano, e che deve fare i conti con forze che questa idea non è detto che vogliano o possano o debbano accettare. Direi che la mia da anni viva impressione che in Federico II si debba vedere più che l'uomo che emerge solitario come vetta su tante pianure, si debba piuttosto vedere l'uomo che ha vissuto una profonda tensione storica e che ce la rappresenta da un punto di vista preciso e puntuale, qual è il punto di vista di un sovrano. Di un sovrano che ha avuto in sé grandi forze e contro di sé forze non meno grandi. Di qui, lo ripeto ancora, la tensione che è anche il dramma di Federico II. Con questo, in un certo senso, il mio discorso si chiude e credo che sia doveroso da parte mia, specialmente perché nella seconda parte del nostro seminario sono stato solo a seguirlo come piano organizzativo e di lavoro scientifico, credo che sia doveroso ringraziare i colleghi presenti che hanno portato il loro contributo, gli assenti che le circostanze personali, ahimè in almeno due casi, non diede, hanno obbligato a lasciarci, e in fondo, scusatemi, ringraziare anche voi, giovani, che avete seguito con, devo dire, tanta attenzione, passione ed impegno le giornate del nostro seminario. Un ringraziamento che da parte mia è particolarmente vivo e sincero, perché so che il lavoro nostro di questi giorni non è stato né facile né leggero. Per i nostri amici e colleghi tedeschi, il nostro italiano è stato qualche volta troppo veloce e troppo difficile. Per i nostri amici italiani, qualche volta il tedesco non è stato sempre facile. Ma quello che è più importante è che tutti quanti ne torneremo sapendo meglio, permettetemi di dire un paradosso, sapendo meglio noi italiani il nostro italiano, perché ognuno di noi si è sforzato di renderlo più accessibile a voi, cari amici di Germania. E dall'altra parte, credo che tutti noi rimaniamo arricchiti, anche per quello che riguarda noi italiani, della conoscenza del tedesco. Anche questo, come la conoscenza di metodi, come la conoscenza di posizioni e impostazioni metodologiche, sono indubbiamente fatti di notevole importanza e credo di poter dire di notevole rilievo. Ma io vi faccio portatore anche di una esigenza dell'amico e collega Prodi, come diciamolo pure, dell'istituto, di questo istituto che ha ora avuto il primo seminario, cioè la sua prima impegnativa manifestazione pubblica, ma che evidentemente spera che non sia l'unico. In questo senso, con la stessa amichevole, fraterna franchezza con la quale ci siamo parlati oggi di problemi scientifici, fino ad ora di problemi scientifici, abbiate da parte italiana come da parte tedesca, abbiate la franchezza di rilevarci, se voi volete, coram populo, se, come succede, le timidezze intervengono anche non coram populo, intervenite a dirci eventuali manchevolezze, eventuali errori che noi possiamo aver commesso, e anche, che è più importante ancora, vorrei dire, tutti quei suggerimenti che dalla vita di questi giorni voi siete in grado di darci, perché nel futuro questi nostri seminari siano non meno fruttuosi e più fruttuosi sul piano scientifico, più fecondi, vorrei dire, sul piano dei rapporti e delle conoscenze umane. Io ripeto, è una preghiera vivissima tutto quello che voi potete dirci ora in un amichevole dibattito. Abbiamo ancora qualche minuto prima che andiamo a raggiungere il nostro solito ristorante. Qualunque cosa voi abbiate a dire, eccoci qua. Però io e il professor Prodi, ti pregherei di venire qui, perché ormai sei un responsabile in questo senso, è vero, vi pregherei, ditecelo con amichevole franchezza. Tutto quello che può servire a migliorare in futuro la nostra iniziativa è ben gradita. Credo che, non so, non voglio dire la mia età perché non voglio fare il vecchio, ma credo che i miei capelli grigi vi rassicurino che io accetto volentieri, per quello che mi riguarda, qualunque critica, anzi, la ritengo la più fruttuosa delle collaborazioni. Quindi, se avete qualche cosa da proporre o da notare, eccetera, ditelo con tutta franchezza. Comincio con l'autocritica, nel senso che il programma era forse troppo pieno, ecco. Quindi, credo di aver già rilevato, per seminare una storia moderna, la settimana, che ha avuto necessità di ridurre a 10 mezze giornate, no? Cioè lasciare due pomeriggi, beh, veramente ormai una è già raggiunta oggi, di dare un'altra mezza giornata oltre a quella del sabato. Di mantenere 10, io avrei sempre blocco, insomma, 10 mezze giornate, 10 blocchi. Cioè dare due mezzi pomeriggi liberi. Oppure un giorno in giro, a seconda di come può venire, non so. Questo mi pare. Ma questo viene da noi, adesso diteci voi. So che avete l'impressione che abbiamo lavorato troppo, ma in fondo. Sì. Sì, questa. Sì, questa. Sì, a me sembra la proposta del collega è, del resto devo dire, una proposta perfettamente naturale, cioè il collega esprime il desiderio che prima di tutto sia data la possibilità di vedere un po' meglio Trento, perché in realtà in questi giorni io ho visto più di uno di voi la sera che si muoveva guardando un po' la città, e avete ragione, questo è verissimo, e poi anche, diciamo così, le località più vicine. So benissimo che fra queste località più vicine, lei l'ha detto esplicitamente, c'è il grande fascino di Verona e probabilmente, questo non l'ho detto ma lo penso io, anche del Gardasee. Quindi è una cosa, ma non sono cose impossibili, quindi le terremo presenti. Lei, se ho capito bene, sarebbe favorevole ad una giornata che sia dedicata ad una cosa del genere, cioè visita o di una località o di un archivio o di qualche cosa di analogo. Va bene, insomma, in altre parole, voi volete, oltre alla cattedrale che abbiamo visto, è vero, sotto la appassionata guida di Don Roger, voi volete, insomma, anche vedere altre cose. Credo che questo sia una delle cose più semplici e di quelle che meno preoccuperanno i nostri colleghi che amici che direttamente si interessano del fatto organizzativo, proprio nel senso tecnico del termine. Quindi, va bene, questa è una cosa che ormai mettiamo, diciamo così, sul piano delle cose che si possono fare. Prego. Io avrei una critica da fare, quindi non mi serve il giudizio. E in questo sono interprete, non delegato, non incaricato, però penso di parlare forse non di parecchi. Cioè, il mio giudizio su questo seminario naturalmente è estremamente, del tutto, assolutamente positivo, perché si tratta di un'esperienza per me finora unica e penso difficilmente ripetibile altrove. Quindi io mi permetto di dare un suggerimento. Secondo me l'aspetto migliore di questi nostri incontri è stato dato sia dalla competenza eccezionale dei maestri che ci hanno fatto compagnia in questi giorni, e sia dalla forma basata su un numero ristretto di partecipanti, che ha permesso uno scambio continuo durante le lezioni, durante le discussioni, per strada, in albergo, ristorante, le nostre opinioni, i nostri pensieri. Tutto questo è una cosa. Perciò io, in una parola, suggerisco solo una cosa, che si continui così. Allora, no, io vi dico, vedete, noi potremo continuare solo ed in quanto saremo sorretti, come è stato in questa prima volta, dalla cortesia di amici, come quelli che hanno parlato qui, in questa sede, perché... Scusatemi se io mi permetto adesso di fare dei nomi, ma il collega Schaller, che è impegnato ai monumenti a Germania storica, ha accettato di venire qui 8 giorni, che poi diventano 9 se non 10 perché c'è il viaggio. È vero, ha sacrificato naturalmente i suoi lavori e i suoi impegni, perché non ho l'impressione che la sera abbia potuto leggere i manoscritti di Piero della Vigna. È vero, il professor Mazzarese Fardella è venuto da Palermo, il professor Camp si è sorbito ben 12 ore di viaggio da Braunschweig a qui, quindi, e la signorina Fasol, voi sapete, vero, ha dovuto come dire, fare le acrobazie per poter venire qui da noi, il professor Schmidinger, voi sapete, per stare qui 3 giorni ha avuto i suoi bei problemi. Il punto è questo, che ci sorregga in primo luogo la amicizia, oso dire più che la colleganza, dei colleghi che hanno accettato di lasciare temporaneamente le loro incombenze, i loro impegni, i loro lavori, le loro ricerche per venire qui fra noi. Quindi è un'occasione per ringraziarli ancora una volta e per dire che solo con il loro aiuto il nostro seminario può funzionare. Questo è il punto primo. E devo dire, secondariamente, già che voi avete detto che dobbiamo fare una critica nel senso della crisi, cioè del giudizio, è possibile che funzioni anche se in futuro, come ci auguriamo, vengano dei giovani come voi, cioè che siano disposti a sentir parlare me per 1 ora e 20, a sentir parlare il collega X per 1 ora e 30, o 50 minuti o 20 minuti a seguire soprattutto pazientemente le discussioni. Io ritengo che uno degli elementi, a mio avviso, più importanti di questo seminario siano state le discussioni. Posso io stesso, e avete, come si suol dire, confidente breum, posso io stesso aver detto cose inesatte, cose discutibili, cose criticabili. L'importante è sempre che noi ci siamo sottoposti al vostro giudizio, con, io oso dire, umana e leale umiltà. In questo il nostro seminario, per voi e per noi, ha un senso. Però in un mondo dove, adesso fate parlare il professore di un'università italiana, dove capita che molte volte si ha l'impressione di parlare a dei sordi, il fatto che in questa sede non ci siano, non solo non ci siano stati dei sordi, ma che abbiamo avuto orecchie bene aperte e in due lingue, vero? Questo è un motivo per me di profondo conforto, e vi aggiungo, scusatemi la parola un po' patetica, di speranza. Però noi vogliamo adesso delle critiche, amici, se no tutto va bene, ecco, bene. No, ma anche che lo sia, è vero. Appunto per facilitare la discussione, renderla più efficace, io proporrei che nello stesso tempo è una domanda ai relatori di preparare forse con qualche domanda di anticipo una informazione. Sì, ho capito. Con le principali tesi, sì. E poi forse con qualche indicazione bibliografica per poter approfondire. Ecco, lo dico francamente, la mia partecipazione alla discussione delle volte era stipulata dalla mia ignoranza. Appunto, questa è un'altra cosa, vi credo, questa è un'altra cosa. È uscito dal seminario di Modello quando la porta e ha trovato. Credo che questo non sia, anche questa è una cosa fattibile, credo che si possa fare senz'altro, tanto più, questo ve lo dico anche, è vero, perché possiate dirlo a vostri amici e colleghi in Germania o in Italia. Non svelo nessun segreto dicendo che noi ci auguriamo quest'anno, per gennaio, entro gennaio, subito dopo le poste natalizie, di potervi fare avere il programma e le notizie relative alla nostra prossima riunione. Almeno ci auguriamo di poterlo fare per il seminario dell'anno prossimo. Evidentemente, disponendo di un più largo margine di tempo, io ritengo che in linea di massima questa, vorrei dire, successione di punti fondamentali, tesi fondamentali, con breve bibliografia, credo che sia possibile. Accadrà un po' fatalmente che poi, quando si va a stendere la propria relazione, qualche punto fondamentale sale o scende o si trasforma, ma questo lo perdonerete lo stesso, ecco. Allora, qualche altra osservazione? Anche sugli elementi di temi per l'anno prossimo, per modella. Cioè, avete qualche interesse, qualche problema che vi interesserebbe vedere discusso? Ce n'è anche troppi, dite voi, per il Medioevo. Metodologicamente, le cose comunitarie sono tre. Primo, da cui esiste, diciamo, l'impressione di andare culturale, questo è quello che funziona, no? La lingua funziona. Sì, direi che non. Secondo, direi il numero chiuso, come è stato detto. Questo, io il numero chiuso, diciamo, il numero limitato. Che più di 16, più i relatori non si può andare, questa è la pressione. Adotterei però non dico un esempio, non voglio fare tagliare, ma probabilmente direi che potrebbero esserci degli errori. Di dietro, ecco, cioè si può dire che qui noi probabilmente dobbiamo avere un certo servizio anche rispetto alla collettività regionale, ecco, per cui si dice da Tirolo, faccio per dire, a Trento, a Bolzano, venga chi vuole, ecco, cioè, e in qualche modo che da Innsbruck a Verona, insomma, ci sia una partecipazione, voglio dire, in qualche modo elastica, ecco. Che si appianca senza toccare quella che è questo è questo, però rimanendo chiuso. Il problema è quello dei partecipanti, non quello degli ascoltatori. Gli ascoltatori non creano mai problemi, sono i partecipanti che possono creare. Il terzo punto è quello proprio della delle tasse di avvio, in qualche modo, della nostra qualificazione nel mondo della ricerca, cioè pare che voi trovate tutto in questa nostra iniziativa si rivolta a giovani ricercatori, cioè così, ai dottorandi, sino a assistenti universitari, giovani docenti, cioè sia questo lo strato, direi a cui deve attingere questo tipo di riunione. Queste sono le cose dei pilastri che devono veramente essere verificate, perché sono state un po' l'ipotesi su cui ci si è mossi. Se questi vanno, allora tutto il resto. Quindi se avete qualche tema che vi può interessare, suggerite, perché più temi ci sono a disposizione e più la scelta è ovviata. Se non vi viene in mente, poi non è che siete obbligati a dircelo in questo momento. Durante le discussioni è apparsa una volta la domanda che sua, ma come erano le città tedesche? Appunto, anche in riferimento allo spirito dell'istituto, come punto di incontro, sarebbe una possibilità di un paragone tra città tedesche e città. È un argomento. No, non il comune, la città italiana, la città tedesca, con qualche esempio. Qui siete voi, diciamo così, di storia e cultura tedesca che ci potete dire se e fino a che punto è possibile un tema del genere. Perché mi pare proprio da lei mi veniva la risposta che delle città tedesche fino a un certo momento sappiamo poco. Comunque, guardate, l'argomento è molto bello, voi avete cultori insigni di storia, di quella che voi chiamate la Landesgeschichte, noi abbiamo ottimi conoscitori del mondo comunale, quindi anche questo è un problema che mi sembra dei più affascinanti, ecco, quindi va benissimo. Io mi permetterei allora, se permettete, per mia informazione, quali, se voi pensate a un argomento del genere dal punto di vista del confronto, del parallelo, del parallelismo delle istituzioni o del parallelismo di alcune città, cioè analisi di istituzioni o analisi di città. Ma è un punto delle istituzioni, perché per una certa città c'è un specialista che ci dice tutto, ma poi il suo orizzonte forse non direi limitato, ma concentrato. L'analisi delle istituzioni adesso. Non vorrei far torto al professor Massarise Fardella, che è cultore di storia del diritto, però l'analisi delle istituzioni ci porta qualche volta nel puro campo del diritto, e allora rischiamo di perdere quello che in fondo qui, avendo cultori di diritto anche, ma non è che troviamo tutti i giorni il professor Massarise Fardella, è vero. Corriamo il rischio di essere prigionieri delle istituzioni. Comunque è un punto di vista che terremo presente. Ma adesso io mi domando se non ci sia qualche cultore di Landesgeschichte che non sia in grado di parlarci di una città tenendo presente i problemi relativi. Perché questo io penso. Questo comunque è un problema che è una proposta che certamente è importante, ecco, non è certo una proposta da non tenere presente, ed è oltretutto è molto bella perché finalmente darebbe a noi italiani la conoscenza di quello che è un po' il mondo delle città tedesche, che qualche volta, almeno per alcune, ci sfugge, ecco. Io ricordo benissimo la mia passione per la storia delle Hansestädte, ma certo se vi dovessi dire che come era Monaco nel 300 o nel 400 non lo saprei, ecco. Altri dice? Ja, ich würde gerne mehr davon gesprochen haben, Universitätsgeschichte wäre ein sehr, wobei man das natürlich sehr begrenzen müsste, vielleicht auf die Entwicklung, denn in Deutschland ist es ja erst im 14. Jahrhundert, aber man könnte da Beziehungen und auch Vergleiche herstellen. Questo è anche il problema delle università in Italia e in Germania. Va bene, anche questo. Die Schränkung, die Bedeutung der italienischen Universitäten für Deutschland. Ecco, ma io a questo punto le devo rivolgere una domanda. Ma avete tutori di questi problemi? Perché il problema non è il tema bello, il problema è chi viene a parlare. Perché io ho dei temi bellissimi, ma la classe conosce ormai meglio le università italiane che le tedesche. Io, è mio caro collega, sta studiando con molta passione questo problema e anche con molto impegno, ma comunque questa è una cosa semplicissima, gli scrivo e lo saprò, se lui potesse parlarti, ma ne dobbiamo pensare almeno a 3-4, ecco. Ecco, senta, collega Schaller, è giusto, lei direbbe primordi del Rinascimento o non piuttosto, è una domanda, o non piuttosto i primordi della cultura umanistica? Perché col Rinascimento noi abbiamo il grande problema dell'arte, che questo potrebbe essere, perché allora ci sarebbe il problema delle arti scriptandi, della diffusione, si viene in parte al problema della uscita di queste arti scriptandi fuori d'Italia, il problema della cultura preumanistica. È molto bello, dal punto di vista dell'organizzazione, io ho soltanto paura che sia troppo grosso. Mentre lui si è aspettato in due o tre. Ma questo si può pensare. Dividerlo, sì. Qui il. Herr Schaller, sarebbe possibile secondo lei limitare, pensando a Germania e Italia sempre, limitarlo alle artes dictandi o non è possibile per la Germania? Forse è troppo scarso sul problema della letteratura preumanistica. Il cosiddetto preumanismo. Sì, questo credo che si possa. Va bene. Questo è un altro tema, mi pare molto bello e importante. Quindi, avanti, se c'è qualche altra idea, andiamo a colazione. Puoi parlare, tanto di tutto questo, poi... Prego. Che si è rifiutato la parola moderatore, perché ha condotto con cura e direi con l'energia necessaria le discussioni e soprattutto a merito suo se le discussioni sono riuscite tanto bene e ha saputo creare questo spirito di fiducia che ha permesso agli meno esperti di prendere la parola e di dire qualcosa. E poi ci ha fatto partecipare alla sua ricchezza di conoscenze per cui siamo tutti grati. E quindi grazie a lei, professore, per chiudere il permesso di modificare un po' una citazione famosa nel mondo ebreo. L'anno prossimo